5. Su 5? C'è qualcuno su 5? Vabbè. Chi sei, Leoncino? Ia. Vabbè, tutto a posto. K, Ia. Come ti arrivo lì nella tua zona, Robert? Quasi 9:20 sei di segnale qua. E caffè. C'era qualche portante, sentivo, 9:25, quelle cose, però non capisco chi è, l'ho chiamato un paio di volte e non entrava. Io ho acceso Alessio, vabbè Alessio, c'ero da poc'anzi, però adesso non ne ho visto portante. Prima cosa, ricorda vedo che sono la figlia per il futuro. Vabbè, ma io lo comprerò lì, dovrebbe arrivare a bombo a te. Eh beh, Gianni sì, Gianni ce l'ho dietro casa, capito? Io sono di Montefurro, lui è di Via Fiermi, quella zona di là, dove abita lì. Se volete parlare di tuo carcere, se io per dire, così mi strate. Veramente. Beh, quando parla lui non entro, quando è, parlo io, capito? E io. Invece io, come si chiama, ti arrivo di segnale, dammi un controllo. Allora, mi sta arrivando 9, 9 più 20 positivi, radio super 5. Io sto provando questo baracchino nuovo dell'Intec 34 0S, hai capito? Sì, sì, già lo conosco, sarà 34S. Quello lì. Cioè, ma è stato modificato, sono presentato a 4 canali e non ne ha di più quello? No, questo ne ha... insomma, qualcosa in più ne ha, dai. È stata allargata, perché quello mi sembra che è nato in origine come 34 canali, se non sbaglio. Sì, sì, 34 canali, però ha fatto un piccolo cambiamento, capito? Infatti facciamo una chiamata su 5, se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo. Adesso nel canale 5 chi vuole entrare in compagnia di Roberto Quadrato e di Leoncino dall'altra parte. Avanti. Sono uscito da stamattina presto, mi sono andato alle 7. Sono rientrato, ho mangiato, sono goduto la 10 e c'è una sonorenza oggi, mamma mia. Dove veniamo? Roba di calcio? E io, poi dopo pranzo sono andato a vedere la partita della squadra di mia figlia, che se non sta giocando lei è infortunata. Però, non lo so, penso che sta giù meglio. Mi abbiamo detto solo questa volta. E cazzo, e vabbè, giustamente... quando c'era al limite ti sdrai e ti riposi un po' le gambe, capito, soprattutto. Sì, io. Un po' durato quello che posso andare a no, con il coso del baracchino. Vabbè, la valutazione non se la possono fare. Ok, vabbè, rimango così. Se no ti faccio ascoltare l'altro microfono, mi dicevi che andava meglio. E cappa. Aspetta, tanto meno un secondo fallo. Guarda questa modulazione, 1, 2, 3, prova radio. Vai, vai. E questa è l'altra, 1, 2, 3, prova radio. Chi ti piace di più? Io dico prima, hai capito Roberto? E chi è più forte delle due, questa o l'altra? Ah, diciamo era più forte l'altra. Appena più forte, dai. Infatti l'ho sollevato un pochettino di più il Mickey Gain, dai. Ok, ritorno con l'altra allora, aspetta. E scappa. C'è di più, Robe, perché a parte ti fa la voce un po' più grossa, hai capito? Dunque il segnale è molto più forte, la radio è più bella e tutto quanto. Vabbè, qualcuno piace questa, a molti piace questa, qualche altro mi ha detto Pucchi che l'ha migliorata, comunque ce li ho tutti e due, così la contenta a tutti, dai, faccio un po' per uno, dai. Questo microfono mi piace di più esteticamente perché è bello, grande, c'è un sacco di roba. L'altro è un altro tipo di microfono, ma si arrangia anche a quello lì, dai, non ci sono problemi. Chi è che parla? Avanti. Chi sei? Avanti. Ciao Franco, buonasera. Ma perché sei così in basso? L'altro giorno ti ascoltavo molto più forte. Come mi ascolti? Male mi stai ascoltando? Il segnale mi hai detto? Ti capisci quello che sto dicendo? non si capisce bene. Sì. E oggi arriva molto più forte di me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, controllo, Marantino, cambio. Dove ti trovi, Franco? In che zona sei tu? Dove sei? Ma sei dentro la macchina tu? Che riuscivi ad arrivare così in basso, perché sotto non è che sia così lontano. Comunque ti ascolto un segnale di 6, la radio di 3, dai, non di più. No, a casa sei molto molto più forte. Ok, vediamo un po' nel frattempo se c'è qualcuno su 5 che vuole entrare avanti, sul canale 5 che vuole entrare. Ciao Frank, la risentiamo tutta alle prossimine, cambio. Guarda, è freddo, dalle batte 2, Leoncio. Abbastanza, abbastanza. E mi ha acceso il condizionatore, giusto per riscaldare un po' la stanza e sta facendo un po' di freddo, si sta facendo sentire la temperatura. Sì, ieri diciamo non c'era tutto questo freddo, ma cazzo giovedì e venerdì ne ha fatto un meme. A parte la pioggia e tutto quanto. Adesso io ho l'altro baracchino in sala operatoria e dunque sto utilizzando questo qua della macchina per oggi. Può darci che me lo dia domani o dopodomani, vediamo, perché allora, i numeri delle cose del quadro, dai, per cambiare le stazioni, dall'1 al 5 uscivano normali, da in poi uscivano a metà, non ho capito cosa cavolo era. No, ma perché adesso accendo un altro baracchino, questo nome che non lo faccio usare, un secondino e accendo l'altro. Scappa. Ma sei tu, Robè? Non c'entra. Ci vedo, sì. Ehi. Dove va il baracchino? Cos'è questo? Che marca è? Questo vecchio baracchino della pace. Papà, tanto è strano. Male si sente? No, male non si sente, però un fronte all'altro lo trovo un po' strano, capito un po'. Non è tanto forte. Vabbè, tieni presente che il segnale si sarà abbassato sicuramente. Quanto è il segnale adesso? Ma arrivi la radio segnale 5, segnale la radio 5, segnale lo stesso. Addirittura Santiago 5 di cosa? È sceso il segnale, addirittura. Meglia. È strano. E il livello del microfono molto basso. No, va bene, va bene. Il microfono va bene, come tu non sai va bene, però è basso di segnale e di radio. Oh, che strano. Non pensavo ci fosse tutta questa differenza di segnale tra questa e l'altra. La radio è brutta questa. È un po'. Non è molto piacevole, capito? Rimane un po' barranotta, là. Metallica, tipo barattolosa. Calma. Vabbè, quello era un altro giocattolo, un altro tipo di giocattolo. Comunque, questo è per essere un baracchino vecchio, già va anche questa. Riparate che mi ascolti. E a voglia, alla grande, Roberto. Calma. Cioè, dopo, aspetta, c'è un altro microfono, aspetta, che non ho mai provato. Aspetta un secondino, così mi dici anche un controllo, sempre che funzioni su questa apparato. Prova, va, non c'è problema. E lo trovo con questo microfono. Prova. 1, 2, 3 radio, prova radio. Questo è ancora più basso ancora, Robe. Questo è un microfono palmarino di un altro tipo di apparato, non c'ha niente a che vedere con questo. Ma si sente la radio, brutta, Sì, la radio si sente. Ma è brutta? No, è abbastanza discreta, discretissima. Si può, è comprensiva. Cioè si capisce, non è brutta, No, si capisce. Ma aspetta che te ne faccio sentire un'altra ancora. Ecco, ma quanti microfoni c'è, Robe? Guardami questa, come è brutta questa. Prova. 1, 2, 3, prova radio, non so se sia più bassa o più alta di prima. è un po' più alta quella di prima, Com'è brutta questa? No, va bene, ottima. Rispetto al primo che ho utilizzato, no quello basso, rispetto al primo che stavo utilizzando, questa è molto più brutta. Insomma, sono una via di mezzo, Questo è un M93 da palmo, troppo basso posso sollevare il microfono comunque questo. Prova a vedere un attimo. Adesso l'ho sollevato, com'è? Molto più alto? Adesso sì. Adesso mandami la radio, il segnale 7, e la radio ti posso dare 5, quasi 6, dai. Sì, ok. Aspetta che torno a volato, vedi se non mi piace stare la mano. Cappa. Questa com'è? 1, 2, 3, prova radio. E questa comincia ad essere 9, quasi, 9 qualcosa. Va bene. Cappa. Ma io una cosa, ma Robert, ma quanti microfoni c'hai? Guarda, aspetta, sono quelli che c'è in questo momento, davanti ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sul tavolo ne ho 8, 9, anzi 9 ce n'è un altro sul tavolo, ce ne sono 9 sul tavolo, più ce ne sono altri 4 da tavolo ne ho. Cappa, ma non è che c'hai un MP5, no, come microfono? Sì, c'ho tutta la serie, c'ho l'MB4, l'MB5, no, ma li ho tutti tenuti perché, e siccome le radio ne ho tantissime, in ogni radio ci ho provato un microfono, questo che sto parlando, anzi, aspetta, ce n'è un altro ancora, non l'avevo visto il microfono, allora, di Tarn ne ho due, uno amplificato e uno no, più c'ho un Intec M600 con l'Echo, poi c'ho un altro sempre da base, un altro Intec M33B, poi c'ho l'MC60, l'Adonis, il 908, l'MB+4, l'MB+5, l'M93, non si chiama altro microfono adesso, l'M93 amplificato, un altro M93 però per un altro apparato, l'SBA di microfono, e poi che cazzo c'ho, ma vabbè, poi c'ho gli altri palmarini di tutti gli apparati, del Ruiz, del Pace, dell'Intec, tutti gli abbinamenti dei microfoni su. Esatto. Ma non è che per caso ne stai vendendo qualcuno, no? No, non me li vendo perché sono uno diverso dall'altro, cioè non è un doppione, non è neanche uno, se no già te l'avrei anche regalato se avessi avuto un doppione. L'unico doppione è l'M93, però sono due tipi di microfoni diversi, amplificato, perché uno ha una capsula originale, l'altro ha un altro tipo di capsula che aveva fatto una modifica a Luca per quello lì, quello che ti ho fatto sentire prima di questo. No, ho pensato che avevi qualche microfono in più e tanto. Ah, cosa gli vendo? Per vendere il regalo quando ce l'ho in più, però non ne ho da dare, se no te l'avrei regalato ben volentieri. Ma dimmi una cosa si può abbinare qua all'interno di quello lì, da tavolo? Io parlo da tavolo come microfono. Guarda, il più economico è quello che va meglio perché per quel prezzo non ce n'è altri, costa 40 euro nuovo, per cui usato lo puoi trovare anche a 20 euro, va bene anche l'MB+4, gli fai una piccola modifichetta e va più che bene, se no li metti, se ti piacciono quelli da palmo che a me non mi piacciono, l'M93, che va bene anche l'M93, adesso non ce l'ho la possibilità di fatelo sentire sull'Intec, no, te l'avrei fatto sentire, comunque va benissimo anche l'M93, l'MB5 se ti piace regolarti il tour, dargli un po' di acuti, con quello riesce a farlo, ma io consiglio sempre a me l'MP+4. Cappa, vabbè, no, era giusto per chiederti se avevi qualcosa, no, perché la persona mi ha detto, ma ne vuole un po' troppo. Guarda, io avevo fatto un affare, avevo preso un apparato che poi mi avevano dato un paio di baracchini in omaggio, mi avevano dato due microfoni, tra cui un MS600, nuovo, più mi avevano dato un piccolo amplificatore, mi pare sarà un centinaio di watt, ma è usato solo da parte. Poi cosa mi avevano dato? Un altro, cioè questo con 50 euro mi ha dato tutto, l'ho trovato su internet, che tra l'altro mi conosceva pure uno di Sassari, era questo qui, è venuto da me in officina, 50 euro, quando mi stava la roba sono rimasto a bocca aperta, mi ha dato un preamplificatore d'antenna, nuovo fiammante, poi mi ha dato una faglietta Hawaii, un M600, un M93 microfono, un altro microfono che non mi ricordo che cosa sia, e altre FSI, con l'amplificatorino, tutto per 50 euro. Buono, ottimo affare. Altra cosa, non è che tu stia qua a prendere un entratore di quasi 25 ampere o 30 ampere. Ah, vabbè, c'è il mio, quello che utilizzo io, è grosso, 60 ampere il mio, no, ma quelli non si danno quelle cose. Quelli già li trovi, quelli switching che costano un po' qualche se. Quindi vabbè, per piccole cose già vanno bene quelli digitali, però io vado solo su questi grossi al trasformatore, io ce n'è uno grosso, enorme, e mi tengo quello lì. E ho fatto la spesa, lo stesso anche io ho trovato un'occasione, però è definitivo, non ci fa attaccare quello che vuoi, con 60 ampere e no, senza vento non è niente, lo puoi tenere 24 ore su 24, non succede niente, è una bestia. E cazzo, no, perché ne so già stanno uno di massimo 25-30 ampere, capito? Perché devo fare ciò, mi hanno dato una cosa che volevo provare, capito? Però solo che questo alimentatore che ho è piccolino, hai capito? Non va bene. Ma se attacchi qualcos'altro ci vuole qualcosa di più grosso, dai? Beh, almeno 50-60 ampere, giusto per dare più potenza. Sicuramente. Vabbè. Per il resto tutto a posto, sì, vabbè. Sì, non mi lamento. A livello del microfono questo va bene, vabbè, sono molto più distante, io normalmente parlo da questa distanza. No, va bene, Roberto, va bene, ottimo. Mi piace come microfono e ci dice come segnale, come tutto. Ciao, non mi sa nessuno oggi. Cercando se c'era qualcuno, ma non è stato nessuno. Sarei tornato, questo fa il culo a Burusso, un soffio rumoroso come apparato. Questo com'è? Va bene. Questa è un'altra cosa, eh. No, il livello microfonico più forte o di meno, no, sì, qua. Molto più forte. Hola. Che? Ehi, ciao Roberto, buonasera. Ciao Domani, e in compagnia di cosa? Di mia e di Leoncino. Ti rilascio Leoncino. Okay, buonasera Giuseppe. Roberto. No, c'è nessuno. Infatti lo sto dicendo anche io, sono andato una mezz'oretta fa, qualcuno ce l'ha, poi si sono spostati, qualcuno è andato via. Come mi ascolti con questo microfono, Giomari? Ho dovuto abbassare, siccome sono con il cuffio. Ho dovuto abbassare pensando sfasciandomi i timpani che. Troppo bella la radio, pulita, bella, tranquilla, fortissima. Ma non è troppo alto, Giomari? No, per me va bene, perché è chiara e va benissimo. Guarda un attimino, guardami questa radio qua. Uno, con cosa mi stai ascoltando? Sto parlando esterno? No, giusto, sei con cuffie. Visto che sei con cuffie, fammi un rapporto anche di livello microfonico. Guardami questa modulazione, canale 5, 27, 0,15. Adesso ti cambio il microfono e mi dici cosa cambi. Questo è un altro microfono, canale 5, 27, 0,15. Dimmi che è più alto dei due e che cosa hai notato. No, questo è molto più basso, Sarà più pulita la radio, più bella, più forte e più limpida, ecco. Questo è meno forte, però è chiara ugualmente, capito? Allora, fammi una cosa, fammi abbassare l'altro e me lo fai allo stesso livello di questo. Sono due microfoni diversi, questo è quello abbinato all'apparato. Fai in modo, adesso lo abbasso un po' il livello microfonico dell'altro, del primo, e me lo fai più o meno a questo livello, Giovanni, visto che ha le cuffie tu. No, va bene. Da qua 1, 2, 3, prova radio, dimmi se devo abbassare un pochettino, no, adesso sto abbassando ancora un po', guarda un po'. Fa un altro passaggio. 1, 2, 3, prova radio, 27.015, canale 5. Quasi ci sigli, ma poca roba, prova a diminuire appena. Ancora un pochettino, lo riduco, sono questo al minimo come livello microfonico. 1, 2, 3, prova radio. E io ti sento bene adesso, è meno potente di quell'altro, l'altro è più incisivo, capito? Però è bella anche questa, adesso va benissimo. Va bene, dai, lasciamo fare così, poi con le cuffie non inganna, riesce a sentirmi più fedele rispetto a un altro parlantino dall'apparato. Infatti, e questa com'è la radio? Perfetta, benissimo, fammi un altro passaggio più lungo e ti guarda anche come li vedi, un attimino. Ok, uno, due, tre, passi. Ci vediamo un po' dopo, facciamo Giuseppe che è il partito. Avanti. La voce è naturale, perfetta, paccata, non ci sono picchi di saturazione, niente, va benissimo, ti ascolto perfettamente. Ok, lo uso un po'. sai che cos'è questo? Questo è il 200 della Cobra XGT. E con che macchina lo sta utilizzando? Col Prozel, col manuale. Manuale addirittura, bella, bella radio, chiara, perfetta. E sono riuscita, meno male sono riuscito, perché non è stato facile abbinarlo. Perché il Prozel, quello lì, il manuale non è tanto perfetto, però sono riuscito a abbinarlo. Guarda, adesso ti faccio sentire un'altra modulazione al volo e mi dici qualcosa, Gian Mario, guardami un po'. Guardami questa è un'altra parata ancora, 1, 2, 3, prova radio, cosa dici? Anche questa è bellissima la radio, è perfetta, pulita, anche questa è bellissima la radio. Ma tu c'hai tutte le radio perfette, robe, vai benissimo tu, qualsiasi microfono che ti o apparato che metti, c'hai una radio troppo bella, vai, pulita, pulitissima, ecco. Questo qua è un vecchio apparato della Apache, stazione base, quello che utilizzavo normalmente, con un tunnel più 3. No, il livello è molto più basso dell'altro, il livello microfonico. Sì, è molto più basso, sì. Però è chiara, perfetta, niente da dire. No, perfetta. Sì, non è incisiva come l'altra, però è pulita e bella, dai. Ah, va benissimo, ok, allora ritorno con l'altra, un attimino. Ma ha detto che c'è ritto fuori avanti, ha ripreso tra Giuseppe. Ma che le mani del microfono? Chi c'è dentro? Ma perché non c'è la radio da un altro microfono? Giuseppe! Venga, aspetta un attimo, mi ha fatto del collegamento dell'altro parecchio, quello che è stata in spalla. Ma vedete com'è questo? Mi stavo preoccupando, schiacciavo i BTT, ho detto, cazzo che strano, non sta uscendo, bloccata la radio. E poi mi sono accorto che c'avevo l'altro microfono attaccato. Capita, Robè. Stavo dicendo che c'hai l'M600 da Lince che c'hai pure, no? Sì, io, quello l'ho abbinato all'M600, ce l'ho un'altra stazione base della Intec al B33104, di lì ci ho attaccato l'M600. È bello quel microfono, ce l'ho anch'io, però l'ho preso dalla Yale Elettronica insieme con lo Saturno Echo e fa veloce, sono in campagna quello lì, ho attaccato col coccone di 3600 SP2, è già quasi 7 mesi che non lo tocco, chissà che funzionino ancora. Non so se ti ricordi, te l'avevo chiesto un consiglio a te, siccome io non lo conoscevo come microfono, mi era capitata un'occasione l'M600, un paio di baracchini, un preapplicato dell'antenna, un piccolo linearino, tutto quanto 50 euro, e insieme poi a un altro microfono, un MBP5, questo mi ha dato tutto 50 euro, infatti quando te l'avevo entrato e dici, pigliano al volo, io pensavo l'M600 fosse un palmarino, invece è un microfono a tavolo, c'è anche l'effetto eco. Infatti, poi puoi alimentarlo anche a 12 volte. E tu c'hai anche il monitor, ti puoi ascoltare mentre che parli sulle cuffie. Sì, no, è bellino, dai. Ne ho un altro della Intec, sempre stazione base, l'MC33B, che ricorda un pochettino la Adonis 208 come tipo di microfono. Sono microfoni proprio belli. Ma io ho anche quello il Prozel 6000 c'ho anche. Sì, che adesso l'avevo abbinato al coso, al 450 che avevo, dell'archivo, ma quello l'ho mandato a aggiustare a Torino, è già 4 mesi ancora ad arrivare. Me l'hanno sfasciato questa sulla traversata, capito? Sicché non trovo le pezzi e l'hanno ordinato dall'America ancora arrivare. E così che questo microfono l'ho abbinato al 450, siamo vicino una bomba. Ma hai rotto il 450 o il microfono tu? No, il 450. Hai rotto il 450? No, io ho fatto l'imballaggio troppo debole, capito? Dovevo mettere almeno sulla mascherina almeno un po' di pezzo di polistirolo, invece non ho messo quella spugnetta a fine e si è preso copo, infatti appena che è arrivato mi hanno telefonato e hanno piegato l'asse del potenziometro che c'è sulla destra, su un staccato veramente, non riescono a trovarlo, capito? Adesso l'hanno ordinato dall'America, così mi hanno detto, forse arriva la consulenza entrante. Avete raccontato la Bianconi? Bianconi c'ha tutta pagata. No, Negrini, sta Negrini a Torino. Allora, Negrini si affida da Bianconi, Carlo Bianconi è quello più bravo che abbiamo in Italia, così vi guidetti, sono tutta già raccolto a Bianconi, quello lì è specializzato per i K, le vasi di centinaia. Ho fatto uno sbaglio per una cazzata, per non dare una persona qua, un dio si me l'ha bloccata la ricezione. E questo dio non sono riuscito a trovarlo, mentre che su internet si trova invece. Io l'ho spedito là e non ho fatto l'imballaggio giusto come dovevo farlo e ho avuto questo incidente, per carità. Oh, già 3 mesi e più, Addirittura, voi saremo che... No, poi gli imballaggi, non bisogna scherzare, io quando ho spedito il mio ho fatto 2 volte il viaggio, mi ha giusto dentro una scatola, tutto riempito di roba, e dopo che l'hai riempito, dentro un'altra scatola, cioè doppia scatola, in modo che se si suonava il contenitore esterno c'era sempre l'altra scatola, doppia, come che avevo 2 cose dentro. Cioè, sto dicendo che ho fatto un imballaggio, lo potevi sbattere a terra, non succedeva niente. Una tascata di cartone, poi dentro una tascata di cartone tutta imbottita, come che la tascata di cartone fosse un coso elettronico. L'ho fatto doppio a scatto. Fatto. Non mi immaginavo che succedesse una cosa del genere. E poi era in posizione dei canali, capito? Che i canali del vostro B, capito? Della memoria. È proprio quello, poi non so cos'è che ha piegato all'interno e per cui il petto si poteva addrizzare, il petto l'abbiamo anche addrizzato, però mi sembra che ci mancava un altro pezzo e non riuscivano a trovarlo. E io ho fatto male, ho fatto uno sbaglio grossissimo, devo spedirlo direttamente a Bianconi perché a quest'ora sarebbe stato anche già qua. Vabbè. Scusa Antonio, allora io ti dico una cosa, Bianconi in una settimana mi ha fatto tutto a me, ma un lavoro importante ha fatto, poi un'altra volta abbiamo scritto con un'altra persona, lo stesso una settimana, a parte che è onesto nei prezzi, è una persona qualificata, tu ci parli, ti dà importanza, ti dà delle informazioni, non è che sanno tutto loro e non ti dicono niente, è veramente una persona competente e onesto nei prezzi, perché io mi aspettavo mi sparasse una cifra esagerata, io ne ho mandato 2 gli apparati e me li ha tutti sistemati in una settimana. Di spese del trasporto ho pagato una fesseria, non era neanche approfittato. Avanti Giuseppe. Da vedere questo come esce. Sì, prova a parlare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova paracchino, cambio. No, qua è cambiato microfono. Questo era un altro paracchino dove c'ho le doppiate in barca, hai capito? No, va bene, anche questa, la doppiata rispetto a prima leggermente appena appena meno acuti c'hai, però va bene, la radio 5 è perfetta, il segnale siamo lì, non so se sia cambiato più di tanto, più o meno lo stesso segnale, non ho visto grosse variazioni. Allora, questa è marca 1GB765. Marca, devo dire marca. La marca del baracchino, hai capito, 1GB765. E la marca è Barca, si chiama. La marca si chiama Boan, Bomban, Boman, Boman. Tu non lo conosco, mai sentito. Tu Giovanni mai sentito? No, la prima. Ehi, l'americano. Giuseppe, ma è l'americano, sei lì. E dunque, questo è quello che devo farli piattare nella barca di mio fratello, capito? Comunque questa va bene, è più forte appena appena di quell'altro, comunque va bene questo apparecchio là. Il microfono della Migra e vedere un po' come sta uscendo. Ah, va bene, Roberto, devo lasciare, dai, sentiamo eventualmente alle prossime. Devo chiudere per tutta gente. Ciao Giuseppe, buon proseguimento, riprenderò bene, devo chiudere. Sì, anche io devo un attimo, non mi assento. Ci sentiamo, buon tutto Giovanni, ci sentiamo prossimamente. Ciao ciao, vai Giuseppe. Yeah, ciao Giovanni, ci sentiamo sulle prossime, dai. Ok, dai, avanti Roberto. Sì. mi ha sentati da una mezz'oretta, dai, mi tiro un giù sul letto 5 minuti così, mi tiro un po' su, se no mi do un'altra roba da chino, dai, così ci sentiamo più tardi. Ya, non ci sono problemi, va bene. Guarda com'è questo qua, questo è quell'amplificato, come si sente? significato solo che stai trappando gli OG, la modulazione è pessima, tratti, vai e vieni. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'ho ammassato ancora, No, no, stai sempre strappando. Quanto è stazionale, Antonio, gli OG? Quanto è strappato? Dimmi gli OG. Hola. Ancora. Sì, stai sempre strappando. Guarda, adesso l'ho ammassato ancora di più, ancora. Sì, non è cambiato niente. Allora, non è questo, E quando non parli, diciamo, il segnale rimane fisso, il tuo segnale c'è. Nel momento in cui parli non si capisce niente, tratti. Guarda adesso, ora. Adesso va benissimo. È quello normale, invece quello l'Alan F10 che è amplificato non va bene qua. Boh, non ho capito perché. Potrebbe essere che la batteria scarica, Lanzi, boh. Va benissimo con questo, perché vuoi cambiare, Giuseppe? Arrivi benissimo con questo. Lo so già, ma volevo fare una prova. No, non Giuseppe, anche da me è così, come ti dice Antonello, strano. No, ma... Non è che faccio una buona impressione. Chiaramonti, che sei un po' cavolo. Gianni. Gianni! C'è qualcosa? Gianni a me? No, c'è il doppio room, non ho capito cosa mi ha detto. No, ho detto che gli hanno avuto la buona impressione su di voi. Sì, sono contento, dai. A loro quelli che c'erano, dai. E l'importante è che, siano stati in buona compagnia, ecco, tutto lì. Abbiamo passato una serata diversa. Già sono persone in gamba, dai. Sono abbastanza successive. No, lui già si vede che, è molto alla mano, mi piace, affronta i discorsi dove devi ragionare, ecco, usare un pochettino il cervello. Sì. Poi lui non te l'ha detto, però lui è una persona che ha girato il mondo, è andato in Sudafrica, per quello ti ha parlato, non te l'ha detto, però io lo so, lui ha girato, ha visto missionari, ha visto tutte queste cose qua, lui le ha viste con i suoi occhi, capito queste cose. Ha girato molto da ragazzo. Ecco, dunque sicuramente grazie a questi viaggi. Sì, giustamente si è fatto la cultura in più, giustamente gli ha ingrandito il suo credo, sicuramente per quello che è fermo in quel discorso lì. Ha visto di tutto, capito, ha visto di tutto, le piaceva molto girare in questi paesi qua, andare. E allora, oggi cos'è combinato? Io non sono andato a... No, neanche io non siamo andati da nessuna parte, poi oltretutto stamattina, così intanto apro il cofano della macchina per vedere se il motore è tutto a posto, c'è qualcosa che non va, e fortunatamente mi sono accorto che c'è la cinghia dell'alternatore completamente sfatta, sta facendo a... come si dice, la farfalluzza mi sta completamente disintegrando, strano, 3 anni di vita, 80.000 chilometri, perché se la cinghia di regola quando è consumata incomincia a slittare, a fare rumore, questa niente, tranquilla, e per fortuna mi sono accorto, dunque domani tocca portarla al meccanico e fargli mettere le mani addosso. Vabbè, cioè è una cosa che costa poco, non è... E cos'è per usura? Se sarà tutta sfaldata, no? Tutta maniurata, ne succede, sì. Magari gira male, coso, e succede. Se uno basta un minimo coso che si rovina subito. Vabbè, io non sono andato perché sono arrivati questi amici miei da Oristano. Siamo venuti a trovarci, lei è un'amica nostra, si è sposata con questo di Oristano e abitano là, abitano a Nuracchi, lì vicino a Oristano. Siamo venuti a trovarci, quindi allora che dovevo andare siamo venuti loro, qui sono venuti semplicità coso e quindi non so potuto parlare. E vabbè, almeno già se ne mette in buona compagnia, già fa piacere, guarda, ti fa passare la serata più bella, tranquilla, una bella chiacchierata, e di più di voi, è il massimo. Guarda, fa molto molto piacere ogni tanto fare una chiacchierata, ecco, tenere un po' la monotonia, scambiare idee, perché non fare amicizia alle persone, è la cosa più bella, secondo me. E avanti, Capris Dos. Perché sono chiamato con questo attore? No, perché mi sono accorto in quel dico che il mio vicino non l'avevo mai toccato, non l'avevo mai toccato neanche io, da quando arrivavo mi sono detto perché non mi ha più il LC, perché i microfoni sono abbastanza buoni, l'ho provato a fare una prova a sentirmi negli altri apparati e non la lascio così, non l'ho mai toccato e se no non prendi andare con la rubrica, infatti come segnale è ottimo, però diciamo sempre la modulazione lascia a desiderare. Ok Gianni, buonasera, come è andata la tua edilisi? Sta bene, sì, è andata bene, era buona e tutto. Io già lo credo, e ti pensi chi? Io te l'ho detto già, quando la cuciniamo, se ce ne per 3 giorni la mangio, e la mangio, hai capito, è una pietanza che mi piace. Patate, carne di maiale, farfe, cavoli, insomma un po' di tutto. Erano buone, c'era qualcuna duretta dove se le hanno mischiate, c'erano quelle di buon conto e qualcuna della duretta, però per il resto come sale, come tutte erano buone. E quelle come la compri, anche noi quando la compriamo ce ne sono due e capite infatta voi, perché aspetti quei mandemote per assaggiarla, trovi quella che dura, non è corta, e invece l'altra poi si fa, riprendi a me e poi la lasciare un chilo. Il M infatti è difficile, scusate ma fare quello su Dushu, è difficile trovare fave di buon conto, è veramente molto difficile trovare qualcuno veramente che non so se qui dipende sempre dalla qualità della pianta. Per dire, quando è l'ultima volta l'ho fatti a Orsi così, una confraternita, non so, la tavola festeggiando, dico anche io c'erano le fave e lì non ho trovato neanche una dura, la verità, tutte completamente morbide, per giuste, la cottura era perfetta. E poi hanno fatto del pane fatto in casa il giorno, lo mettevano in questa griglia col carbone acceso e ci sollevano sopra il lardo direttamente col pane. No, già, anche la verità li ho trovate buone, anche con i sassi erano buoni, ripeto, anche lì qualcuna duretta ma niente di più, si mangiano ugualmente, ecco. Volevo dire chiedere a Gianni doppio rubo se ha visto stare olio. Cava cava, no, solo olio, stale non c'è. Come già? Solo olio, stale non c'era. Ecco, voglio metti tutti e due così oggi, dai, già va bene. Avanti Leonci. Leonci. Poi, dimmi. Fai una tia doca, fai da, nana da che cosa. Partecipa al discorso. No, ero un attimo in bagno perché mi stavo sciacquando le mani, dai. Svuotando le olive. Ah, come? Stavi svuotando le olive. No, non stavo svuotando le olive, mi stavo sciacquando le mani e non ho approfittato che c'era l'acqua calda e stavo lavando un po' sotto braccio. Ah, già va bene, d'accordo. Comunque niente, mi capri tu. Io questi giorni prendo il Lana 44, te lo porto giù il mio Lana 44, così facciamo scambio con qualche apparato. Sì, ti do questo, ti do, non ho problema. Presto questo usando adesso, ti do. Ok, io di uno l'ho promesso a G. E andiamo a tre a posto, la buona anima di Becca Verde, un sacco di quelli tutti questi a posto, hai capito? Anche un Chrysler c'è, a me non mi interessa più nulla, ce ne sono troppi. Ma tornare al discorso delle Fabia, com'è? Quando portavo quei ragazzi dell'Angola di San Martino, al periodo di carnevale me ne regalavano, non che ci fosse i chili, ma ti dico a me che cucinava subito, buoni veramente, e io non ne ho faccia di andare a comprendere perché poi me ne regalano, hai capito? E carnevale come te, non credo essere facciato, però ogni anno me ne regalavano per il giubbe di grasso, ti dico a me, non ce n'era una che era dura. Che vuol dire che non trovavo? diciamo la qualità della, della piazza alla fine, sì. No, no, abbiamo fatto gli apparati già, mi sarebbe piaciuto avere un vecchio apparato, anche con, come si chiamano quelli che cambi le frequenze, non mi ricordo come si chiamano quei vecchi lì. Quello mi sarebbe piaciuto avere, quei vecchi apparati lì. Uno ben, ben tenuto, funzionante. E questo allora dove me li ho fatti per me, capito? Ma sto girando un 40 anni, cioè, non è questa cosa, ma hai capito? Anzi, le devo trovare una vettura, già ne ha uno, già ne c'ha un toccai, già. Ma non si tocca, toccai solo io. Perché allora che toccai è se non si tocca, scusa, Infatti lo toccai, ma non lo tocchi per il presente. Ok, no, io adesso non ne prendo altri, assolutamente no, hai capito, lì noi ti ce lo doppio, ma diciamo che lo sai che qui come sono questi, non vogliono nulla, non ne frega nulla, non voglio che un domani questi qui si sformano, hai capito, perché a loro non le piace, fai il contatto e dico, lo sai, che possono avere i figli, che qualche uno riesce scemo, come sono scemo io per queste cose, capite, si appassionano di quel settore che se tento di favorirne uno, avendo le sue virtudi, no? Non mi faccio mai previsioni a me, potrebbe diventare geloso l'altro, hai capito no? Perché qui c'è qualche doppione qui. Infatti, dunque, se c'è qualche doppione, ne dai uno, facciamo scambio con uno che è doppio, ecco, allora te ne fai di due qualche miseria. No, ancora li ho tenuti da quello che è doppio, no, però è per quello ce l'ho, no? Ce l'ho per quel motivo lì, hai capito? L'ho proprio presi apposta, no, tu vedrai, siamo molto, lo vendo il 440, se mi tengo il 440, ne comprerò un altro anche per averne due, ma lo sai, hai capito? No, non voglio creare problemi, perché queste cose sono successe con i miei cugini, perché non ho dato il respiro a me, capito? Cioè, i miei cugini non mi parlano, quelli di continente dove avrei a me, me la fanno una moto, questo. E tu sei la doppione, non lo voglio, non puoi comprare una moto di rumine in nonno. A me tutti questi non c'erano mai, perché quello che ha muro mio cugino ha capito benissimo che c'erano sempre io, allora. Però ci sono questi cose succedono, hai capito? E niente. Capito già, quindi non toccai? No. Quello rimane qua, è il regalo di un amico e io ci tengo. Non lo dà nessuno. Kappa. E allora comunque ci sono sempre queste cose. Quando ci sono eredità si vedono le persone. L'ignorante è quella lì che gli fa parlare così. Beh, ti dico già che siccome la casa era sempre chiusa, poi c'era questa blitz che era scoppiata tra mamma e la sorella, cioè scoppiò, mia mamma gli è toccata la parte sua già della casa e voleva la parte, noi a tutte cose mia madrina, la sorella, la voleva comprare, ma mamma diceva, una camera mi è toccata, due camere mi sono toccate, e mi diceva non le prendo, però poi visto che c'era questa cosa che è finita, era più di 6 anni che andava avanti, la torre è stata, diciamo, sono stati italiano, poi mamma è morta, hai capito, nel 2010, però hanno fatto italiano nel 2012, stiamo parlando nel 2012, nel mese, mi sembra prima dell'estate, tornando al discorso, no? Per farla breve, io non ho voluto nulla. Non ho voluto proprio per notare capito per noi c'è roba che nera mi attorno che non si metti di cristallo, anche io guarda quanto usciva perché mia nonna era commerciante anche lì nel negozio e queste cose le facevano, capito, quei rappresentanti e la casa era arredata benissimo perché il nonno era uno dello Stato, hai capito? Qui non ci mancava mai nulla lì. Infatti la parte di mamma, adesso di mio figlio, è a tappeto mia madrina e mi ha lasciato anche, l'hanno dato come non hanno toccato una, però che rompeva le scatole, era il fratello di mamma, quello che è incontinente. Lui voleva tutto se lo voleva usare lui, che poi gira non si è portato via nulla perché è venuto, si vede che a come colgava più la spedizione, il trasloco. blocco della roba è lasciato tutto quanto qua, però per dirti, molte volte si, come sapete, dice Morgiani, si affigliano per seguire. Capito, è sempre verità, non sai. Vero, mi, e non ci regalano un apparato, beh? Già che non mi ho preso nulla da lì, non mi ho preso niente, te lo giuro, e non mi ho preso nulla, adesso c'è il mambo ancora a casa di mamma, quando non ci sarà più, a mia sorella non le voglio nulla, non ho preso nulla già, e già che andate con il nome, viene a tutto. Sì, ma già ci ha preso il tuo socio, ci ha lasciato verità, là. Mi stai tenendo la bomba, la cosa, la casa mia è piccola, però dove me la metto? Ti ne dico, una caprea, una ca, un e non cambio come cambi girare, no, e non può, capito, se ne può cambiare un po' su un mobile, comprare un mobile ce ne devo buttare un altro, non ce ne vede tutto qui, hai capito, va bene com'è, capito, mi basta, a me mi abbassa la casa che c'ho, c'è gente che non è a nulla. Capito, uno te la posso dare al me al limite, dai, mi dai lì come siamo a posto, Richard. Tu sei fuori completamente. E sono visto. Tanto tu non lo uso, lo faccio mettere a posto, lo uso in trasmissione anche. Un bel apparato. Cioè il catalogo della Marcucci che c'è, molto bello, molto bello. Mettilo a posto, hai capito? Ok. Gianni Locchionte, stavo dicendo una cosa, ti ho sentito l'altra sera, che stai per fare fuori lo sciur. Fuori, non so in che senso. Stavo dicendo, c'ho il microfono, voi che l'ho tutto forniciato, mi sembrava di aver sentito una discussione col microfono. Sì, sì, l'ho detto, ma non è che ho detto che lo voglio far fuori, se lo vedo, sì, tanto ce l'ho fermo, non lo sto usando. Ma poi che bello già, l'ho visto, non credevo che era quel modello lì. È bello sì, è bello sì. Vabbè, se lo vedevi prima era un po' consumato, ma era bello lo stesso, perché era nuovo, però con la vernice era consumato. E allora l'ho voluto far meglio. Quando era a posto, ma la lavetta, hai capito, e funziona alla grande. Proprio antico, capito? A quello lì già io ti sto dicendo adesso, a pochi di scherzi, no? Quel microfono lì usciva proprio nei primi anni che sono usciti gli apparati e difficilmente io né nella GBC, né qui in Sardegna non li ho mai visto, però ero collegato allo sito già, dove c'erano per esempio le console, quegli apparati, proprio nel 1970 c'erano le cose di copertina, c'era quel microfono e l'SB, tutto con quello che c'ho io, e un bel microfono già, un bel microfono, si adatta molto bene alle linee dei radioamatori, mi ha promesso. Sì, no, l'ho visto, non sembra neanche, come si dice, ripreso per togliere le piccole imperfezioni causate dall'usura, ecco, alla fine, è perfetto, si presenta veramente bene, ma io capito, mi trovavo a tavolo, ma non credevo a quella tipologia di microfono, è molto molto bello, esteticamente è molto più bello dell'MB, della ZG. Scherzando, ma il microfono, io poi già ne ho preso il giorno, ero anche lì, lo potevo anche acquistare, il carne non l'ho preso perché ce l'avevo già, come hai capito, poi gira, è il mio, era in garage, non funzionava, allora poi Natalino mi ha venduto sia il più 2, il più 2 tutto quanto restaurato, tutto cromato, tutto rifatto, hai capito, perché ne avevo un altro che c'è, hai capito, devo mettere quante cose nuove, la capsula non era la sua, che aveva quel microfono, il Tarnel più 2, che l'ho messa originale, che funziona, hai capito, e niente, però ripeto che sono microfoni che hanno una storia e sono belli, anche quelli in una vetrinetta già, io lo so, perché poi adesso la vetrina non ce l'ho, però adesso che ho saputo sul garage, quando mi entra qualche soldo in mano, li metto in quelle vetrine e tutta a vetri tipo la GBC, hai capito già, bisogna anche non tenerli in quella del mobile, no, esporli per vedersi. Ma ci vuole lo spazio già. Io ho fatto tutto in mezzo allo spazio che ho. E purtroppo se io avessi avuto spazio qua me l'avrei messo nella stazione proprio. No, io qui sono diciamo qualche cosa, no, non so che ho dato via, ho la Ducati, la Tuvia e la Suzuki che ho fatto già. Vendute. E per fare spazio mi ha lasciato il Ducatino 28, la Vespa, il coso, il Maragutti, Fitti che non è neanche già radicato, poi gliel'ho fatto riscendere, speriamo che non prenda pure perché l'avevamo ribondicciato, LSR che adesso mio figlio mi ha detto sento lavorare in cantiere, ma lo do via e mi piglio la Ducati Monster, mi ha detto Claudio, adesso vediamo, se tu mi la Ducati, quella la fai fuori, perché è inutile già che ho fatto più le mie, le moto, per quanto te ne messa proprio i garagi per rientrare altre moto dentro la moto se ci più fatto, se ne entra una me ne devi uscire un'altra già. Vabbè, l'unica passione che c'ha tuo figlio quella lì. Il piccolo, il grande non gliene frega nulla, eh? Il grande non gliene frega nulla, l'ha avuta già nella moto, se l'aveva comprata la 125 RS, sapeva, nella... Non è così che c'erano di motore, era un aprile RS, per quelle da cosa, ma camminava, era anche lavorata per camminare, l'ho comprata da questo di anche in Sardegna, la protocollo, beh, la teneva già, aveva 16 anni, beh, non l'ha mai usata, l'abbiamo venduta all'aereo, per dirti no, ma la Toyo già l'ha andata, c'era la Honda, qui ce l'ha venduta, 125, e cioè quella la cosa, e niente, adesso poi vediamo, adesso ci siamo un po' a respirare, a mettersi a posto perché mi presentavo dicevo invisiva e che poi vediamo un po' se lavora, ho detto però una non pagarmi mi faccio qualche amico a San Martino figlio maschio giustamente anche per le donne, io ho molto di grossa cilindrata, la verità, allora ho fatto di tutto per non fargliela prendere, non so se è giusto o sbagliato, anche a me ci vogliono queste esperienze, però molto di grossa cilindrata a me mi danno un po' troppo paura, ecco, meglio un ciao, un sì, dai, che non superano i 40 km orari, sei un pochettino più tranquillo. Io lo so già che io la penso come te, però io quando ero età sua la pensavo come lui, hai capito? E lui è maggiorenone, quindi no, già per quelli di coso, la Honda 125 camminava più del Ducati Monster, camminava, era una schizia, solo che poi voleva far tanta di una piazza seconda mano, e avevo fatto un po' di sacco, poi, hai capito? Perché lui la voleva perfetta e poi me ne compro un'altra e adesso vediamo poi il da fare. No, se era capitare qualche cosa, Antonio, anche con un cinquantino capita o anche andando a piedi, riprendi già. Ma se corro di più, il rischio è superiore. Ma che quello è vero già, che quello è vero. E tutto c'era, e anche le macchine, i cuscini di questa macchina Puglia, mamma mia, io sono come, non so, sono ansioso come Antonello, non è che io non sono ansioso, a me piacciono, però se uno le guida, come deve guidare con dovuto rispetto, come ho fatto sempre io con le moto, grazie a Dio non mi è capitato mai nulla, vado da solo, a un incrocio mi serve tutto uno, quasi fermo la camera, ma qualcosa che mi ha fatto male, è capitato male, c'era la manovra, c'era una piccola frattura, ma l'unica cosa che è capitata con la moto, mi ha promesso. Io ho un monopattino, però mi manca il motore, a marce. Scusa con la scopa. Ma ti è rimasto un microfono unico, sarà di Rioncini. Io c'ho un monopattino, però rimane il motore, ce l'ho a scoppio. Guarda che ti ho trovato un microfono lì, da tavolo, Gianni ti sta dando lo Shure. Capito. Gianni ti sta regalando lo Shure, stavo cercando un microfono da tavolo, a stare fatto già. Gianni capri due. No Gianni, no, io non ne ho Shure, ne ho uno però che non è bello come il tuo. Ma si fa sentire. No, a parte gli scherzi, però già neanche non ho visto neanche nei cinque elettronica, me li ho sfogliati tutti, si vede che è uscito molto prima degli anni 70, comunque ti faccio un pensierino, però te lo voglio portare più, te lo sai io come sono fatto, il pallino ti comandano, hai capito, non c'è problema, hai capito già. Ok, perfetto, riprendi Antonello Paraguda. Yeah, già va bene, tu fortunatamente Gianni Capri 2 sei sempre in affari. Buono, una cosa buona, però porca miseria, che dai, lo dico di donare, ma perché non che rivendere un prezzo abbastanza giusto per qualche apparecchiatura vecchia, che diciamo di vecchia epoca, ma perfettamente funzionante, che sarebbe piaciuto avere, ecco. Tutti, mi potresti fare anche qualche prezzaccio per qualche apparato che ne hai anche abbastanza. Ma di quelli non ne do altro, anzi se ne ho, se ne trovo un altro che si triplo dopo luglio, hai capito? Ok, già per esempio ti propongo lo scambio, dai, ti do il midi del 40 canali con mando laterale e mi dai lo sciuro, ci stai? Ma il base? Eia! Dove me lo metto? Non c'è un posto. Non ho posto, ma se no l'avrei fatto volentieri lo scambio. Cosa ti stavo dicendo, Antonè? Ma hai visto quanto sono saliti su eBay i gas? Sì, toccano anche 350 euro, sì. Costano un po' più di dinari, è vero, ha molto, molto. Per la tipologia di apparato che ha, sembra, sa, che tenga molto il mercato delle vecchie apparecchiature. Confronto ad altri, è che trovi a 100 euro. Però il Galaxy, ma lo sanno, sta aumentando, sì, è vero. Quanto hanno il valore? 270, 300, 370, ne ho visto un bel di cose, vabbè con 370 c'è anche mi pare l'accordatore e un'altra cosa, boh, vabbè comunque non se ne vale lo stesso. Andavo, capito, io te lo compri il gas. Sarò il gas, se lo cambiare quei transistor quando ci abbiamo preso, hai capito? Se no e questo non si muove manco si. Anche se mi danno la luna già, quello rimane lì, quelli che mi era attaccato io non escono di manco dalla porta dove vedo entrati per passare l'altra camera. Sto parlando di un Galaxy immacolato. Nuovo mi già è impeccabile, non c'ha un colore, infatti gli ho messo un panno di velluto, l'ho coperto. Ci vuole cambiare da quella roba che mi ha toccato perché non è un problema, a trovare il codice, c'ho anche il mio scaricato in manuale, c'ho tutto. E so che poi c'erano le pezze, già niente, ma se te telefono riesco ad aprirli i componenti. Poi a piazzare anche Vittorio me li piazza, non c'è problema per quello. E no, non mi fa che una tavola lo sta vedendo già, Negrini con un microfono da tavolo e ne vuole 350 euro. No. Chi è stato, guarda? Ma ne vuoi 50 euro per questo Galaxy? 50 euro del Galaxy non ti do manco una mano. Vabbè, una manopola già te lo posso dare, va per 50 euro. Quella di dietro però. 350 euro. Non 50, 350 euro. Guarda sul nostro sito di Negrini, 350 euro. Adesso il prezzo del gara si è alzato un bel anche. Prima valeva 200, adesso sta aumentando un bel. E mi fa piacere perché, mi fa molto piacere perché è un apparato che mi è sempre piaciuto. Ciao comunque mascherato, ben sentito, in compagnia di Gianni Capri 2, di Antonello Baracuda da Ossi e di Giuseppe Leoncino. Avanti per chi. Entrate e vedrete che poi la gente arriva. Se tutti dicono così, si lamentano che non c'è nessuno e poi non entrano, e chi sa la ragione? Perciò, per dire, vabbè, là, per lui due cose, senza gli altri, la mascherato, saluta a tutti. Ciao mascherato, buon Codix. Saluto a tutti quanti, dai, ha detto che non vi sente ma vi saluta lo stesso. Io lo sento già, lo sente, non lo sento, a me non mi sente. Mi sento, 705-0567, quindi mi ascolti, sì. E a voi, anche tu da parte mia, buonasera Barracuda, da Ossi, anche tu Santiago 5-0-5 con picchi positivi, sì, a me mi arrivi benissimo. Senza io sto utilizzando un diporo con diciamo a V le puntate per cellulare, quindi la faccio fatta a due, quindi di conseguenza va bene così. A voi stai usando di polo qua oggi arrivi benissimo, ripeto, con un bel po' di picchi positivi, io ti ascolto benissimo, a Puglia, però non so se Capri 2 da Muros, vediamo un po', Capri, lo copri da mascherato? Diciamo che non sento il MZQRM, lo sento, il MZQRM, comunque c'è anche entrato Peruccetto il Moro che stava chiamando, buonasera Peruccetto, vai per Peruccetto se ti ascolta. E a voi, vabbè, sicuramente mi sento piccolino perché sto uscendo con 4 watt. Sì, Radio Santiago 5, Radio 5 mi sta arrivando. Comunque buonasera alla Barracuda. Perché quando mi senti alto perché sto usando il BV131, per il momento è spento. Perché almeno mi sentiva già mascherato. La cosa va la ceramica di nuovo. Aspettiamo, sono ansioso. Ok, Pinu, vi lascio per già dello Perù. Non lo ascolti a Pinuccio già. Basso lo ascolto. Ciao Pinu, ben sentito. Mi saluta da già dello Perù, mi intendo là Pinu. Che non ti sente già, comunque. Aspetta in questi giorni che già lo ascolterai come una schioppettata. Grazie a me, guarda, non lo penso che vuoi mettere sul soffo. Ti stavo dicendo già, da Negrini ce n'è uno in vendita e ne vuole 350, non 50, come se ci fosse 50, ma con una manopola ti danno. Ed è, sembra bello, capito? Questo che ho io è nuovo. In realtà di quel lavoro, ma a tempo fuori facciamo quel lavoro già. Raga, adesso mi ascolti Pinuccetto, guarda. Chi ha durato a Gianni che ha portato la quinta venuta? Sì, ma beh, hai nome, ma devi sono attessimi Pinu. Santiago 8, o si giungo asciugato. Ma dico Pinu, sennò che è arrivato qua, sì, riprendi Barracuda. Sì, vedi anche da parte mia adesso ha abbassato, si è sentito che ha spento l'aspetto aiutino, qui mi sta arrivando Santiago 3 Radio 2 e riesco tranquillamente a sentire e tirarlo fuori. E ancora impara come fra Sagazie che arrivi di una cosa, fino a Sagazandra mi come sopra e lo vedo. Antonio, ripeto. Oggi, ma... Cosa mascherato non mi sentivano. Ok, perfetto. Penso di sì, giusto. Io ti ascolto. Mascherato. La massa te ne vai, buonasera, Grazie a lui, me l'ha ascoltato, meno male ha avuto il esercizio per attivare questa frequenza. Beh, come stai? Era un giorno senza sentirti a te, Adesso manco male che già ci vediamo ogni tanto noi. Tranquillo, sono sempre un ascolto, posso a casa, sono sempre un ascolto, per vedere se vi comportate bene. La manca te ne vai a casa, I vecchi ci piccato vedi come si sentono. Sono così cinici, sono proprio, fanno casino, sono maleducati, proprio pessima gente, avanti già. Vuoi togliere una curiosità, se oltre a noi che moduliamo quotidianamente, ce ne saranno molti in ascolto, veramente vecchi CB che proprio non gliene frega un cacchio di entrare, ma forse ascoltano, è possibile oppure è proprio morta la situazione? Beh, c'è la gente che ascolta, capito? Se ascolta questi CB se si comporta bene, fanno casino, che sono proprio la parte più giovane del mezzo sono i CB, capito? Non lo so, non è frequente già, già fa una loro parte, non è così, no? Vabbè, ma le altre frequenze, gente sì, gente scopre per me, mi piacciono come loro. Quelli si comportano bene, anche loro sono fatti di carne ed ossa, non ti preoccupare. Anche lì, sinceramente, non ti voglio dire cazzate, doveva essere la settimana scorsa, due settimane fa. Così all'improvviso stavano parlando e si sono attaccati, per dire, per cazzate. Dunque, non è che la differenza sia poi così tanta. Già lo so, sono più giù di loro, hanno solo la pazienza e basta. Ma questo, è un po' che hai, no? Ok, la sono fermo, ma con giù le interessa, se io tu una cosa che mi dà di fare, puoi tirare questo e io quello. E capito proprio che quando mette le mani che se sei fatto suo, riprendi il baracco. Ah, la verità, guarda, io ne ho girato molti di tecnici, la verità, no, non molti, perché bene o male, tanto bene le cose sembra che mi durino, salvo qualche imprevisto, faccio qualche cazzata involontaria, però ne ho conosciuto uno, altro che mi ha fatto conoscere Gianni, e lui mi sono trovato benissimo, guarda, più netto di così non ce n'è, per conto mio, ecco. Chi è già? I due Gianni, romani. Stavi parlando di te, che hai capito? Sì, ma lo conosci tu Pino anche? Tutti me l'ha detto Pino, me l'ha detto che hai comprato le antenne, come no? E mi ha parlato anche di te, ha parlato. Ok, perfetto, perfetto, ok. Sì, sì, me l'ha detto, anzi mi avevo dimenticato di dirtelo. Ok, cosa stavo dicendo già, tornando al discorso, chi è questo tecnico che è diventato un coello? Vi auguro un buon 144, buon campo sta domani, è una buona giornata per domani, dai, quelli sì per me, ciao, buonanotte a tutti. Radio Vapore, Vittorio Giove, sì, tutta volposa, mi dirischi, lui era lassù lì, hai capito, c'era anche la moglie, signora Laura, hai capito, sì, sì che li riconosco, come no. Non so se ancora c'hanno i laboratori o poi non ci sono io più passato, hai capito? Riprendi Giuseppe. Riprendo per chiudere, vi auguro di nuovo la buonanotte, saluto a tutti e un buon 144 quando lo farete e un buon trabacco per domani. Ok, ciao, quelli sì per me. Ciao Luigi, davvero buona serata, ci sentiamo alle prossime. Mario G, ti auguro buona serata, ci sentiamo alle prossime. Sì, Vittorio già, Vittorio, io mi sono trovato benissimo. Sì, ma anche l'anno scorso avevo provato il Galaxy che avevo aumentato troppo il micchiglio, tenevo sempre a manetta, ho bruciato un piccolo pezzo dentro e me l'ha riparato tranquillamente e allineato il Galaxy. No, già sta facendo, sai il fatto suo, non ti preoccupare. Sì, non lo metti in dubbio, non ha vita che fa. Se fate quando ambiro i pezzi l'ho portato da Vittorio, ma mi piace anche averlo così, giusto, tu funziona, se lo accenna tu e parla, però non esce quel vatti che deve uscire, non lo muovo, e qua è che, ma come italiano lei viene dai noi si muove, e che ci tengo, quando mi danno una cosa tu ci tengo, proprio, è come che mi abbiano regalato una catenina d'oro. Ok, ciao Giuseppe, ci stai ascoltando, buon tutto, buonanotte, buon tutto per domani. Vediamo se Gianni è sveglio. Gianni? Sì. Quindi tanto ti viene, ah, no, ma anche a me viene, mi dice, non per appigliare a, come si chiama, se mangio, se proprio cosa mangio, ma mi addormento sul tavolo, vedi, e mi devo buttare, e subito si russando, anche a me già lo fa. Non ti devi dare cosa, riprendi a me. Vabbè, giustamente fammi la sua movenza. E niente, no, l'ho prodotto lì già, una persona molto affidata. Dunque, secondo me, questi tantini ordinati pezzi e poi alla fine non sono quelli, vai, lo porti da lui, vedi lui cosa deve sostituire, poi nel caso deve essere allineato per la linea, dunque te lo metti in condizioni di usarlo tranquillamente, perfetto, in ogni dettaglio. Dunque io ne avevo ordinato, perché l'avevo portato lì da lui e poi non fatto che ritirarlo al momento giusto perché ha lavoro, però aspetti un po', ma già lo che ti chiamo che vai a ritirarlo, garantito, perché ti dà anche la garanzia del lavoro, quando lo porti a casa, guarda, se sono sicuro che esce bene, funziona bene come quello che ho io a casa. Io penso sinceramente ne avevo ordinato, infatti da lui ci pensa lui, alla fine vede a lui cosa cambiare, cosa serve, cosa non serve. E poi se non sono quei intenti già, alla fine una doppia spesa così inutile. Ma io mi parlo, come diciamo, riferendo a quello che mi ha fatto. so se si alza, però io l'ho provato molto un'attimo, come hai capito, se io lo accendo, tu mi senti, hai capito, solo che c'è Claudio che va a fare questo lavoro e ha provato di più, se ne ha fatto un minacchio che non erano mai arrivati da Pugliaro, comunque, cioè, quando glielo ho tolto, lo vedrà lui, hai capito, poi ti devo, lo posso portare anche i miei più, si li ordina lui, non c'è problema. Hai capito, non ho questi problemi, solo che parlando al discorso, che ho lavorato tutti i pezzi da Pollaro che non li hanno mandati, cioè sapevo che ci voleva una terminata anche per Bruno questi i cosi dello stadio come la radiofrequenza, hai capito, ma ordinarmi lui, ma adesso sta per dove, hai capito, non è offerta perché non ne ho apparati, hai capito, e quelli proprio sono tutti quanti coperti, guarda, già fatto, Claudio mi ha regalato tre bellissimi apparati che non li do, manco se uno mi regala una camera di baracchini, capito, sono molto belli e molto tenuti bene pure, mi ha trovato. Sì, quello sì, sempre 23 canali. Ma uno è a 40, e poi c'è il fuori Galati che ha tanti canali, i 23 canali. No, già sono buoni quelli, a voi non ce li trattava sempre bene, a voglia. Già va bene, chi c'era in ruota? Sì, non so se c'è poi come si chiama, ma è Norabona. Mascherata, ci sei? Va chiuso già. E c'è Gianni, sei ancora sveglio, già. Gianni non mi ha dato ieri sul giorno, io lo capisco perché però succede anche a me. E capito come, non dispiace, un come si chiama, fa la figura sua, prima la vettina, poi fa la figura sua, hai capito? E mi ho scaricato tutto il manuale, mi ho scaricato, anche mi ho testato anche lo suo lì sopra, l'ho trovato e hai capito, e esce Antonè, però come se lui parte. Che devo uscire, ma questo era Pompugno, ha detto che rientrava, invece è sparito. Antonello, ci sei? Ciucucciuse, ci sei? Beh, sicuramente è dormito. Ti volevo chiedere già, tu non li hai preamplificatore per la 27? Io ne ho uno, guarda, la scelta della ZG. Molti ne parlano male, comunque per il momento adesso sono funzionati sempre bene. Il preamplificatore per la 27 tu ce l'hai? Ma l'antenna? Sì, il temperatore d'antenna. Questo chiodino qua funziona veramente bene, adesso è scollegato, devo collegarlo. Fa da meno 10 a più 30. E ti dico che quando ho detto a più 30, guarda, è impressionante. Ti amplifica tantissimo le modulazioni. Chiama un po' me, che è l'unica cosa da quando sono in frequenza che non ho mai messo. Mi sono fatto tutto, il microfono amplificato anche all'epoca, il lineario e tutte quante queste cose, però proprio per amplificatore d'antenna per me non l'ho mai messo. La prima cosa che ho comprato era il professor, il Rosmetro. La prima cosa, quel primo che mi ho comprato, poi ne ho comprato un lignarino piccolo e poi il microfono amplificato, hai capito? Negli apparati, quando avevo il KP2 non avevo nulla, mi ha come, e manco quando avevo il patch, perché una volta avevo comprato il microfono amplificato, dopo andavo a fare, come si chiama, avevo fatto danno nel baracchino, l'unica volta che ho fatto danno, mi ha detto, allora ero un ragazzino, hai capito, e me l'avevo messo a posto, mi ha fatto vedere, avevo bruciato due transistor, del corrugere di vicino a modulatore, e niente, e poi gli altri li avevo comprati da tavolo quando avevo comprato il Tonfat, hai capito? Poi proprio quello, ma sì, c'erano i cataloghi, ma niente, allora lo sai quando era per me, c'erano i canali sempre zitti, di gente, sentivo bene, mai pensato, cioè però è anche, poi c'era anche una cosa utile se uno modula da lontano, ma adesso non ce n'è molta gente, ma come. Ma guarda, io l'ho trovato 23 euro, nuovo di zecca, nuovo, si chiama KP28, non so neanche se si trovano più in commercio, ho trovato a più fare, sempre 23 o 25 euro, però come l'avevo ritirato, l'ho provato, dico che funziona veramente bene, giustamente non ne vale la pena usarlo quando c'è molto guerriero. secondo chi stai ascoltando, c'è troppo QRM, cosa fa? Non fai altro che abbassarlo a meno 5, a meno 10, e giustamente sì, ti abbassa la modulazione, ma ti abbassa anche il QRM e riesci tranquillamente a ricevere. No, c'è un bel pezzettino, ci vuole anche per la 27. Io anche per quello mi attendo, perché altro se aumenta la modulazione, aumenta il QRM, all'epoca c'è, se ne formava c'è meno il QRM, ma all'epoca si formava molto QRM nella radio. No, niente, non ho mai fatto me, mi avevo fatto più il coso, il WFO mi ha preso, e anche quello era, mi aveva piazzato su pace, però andava bene a me perché slittava, hai capito, niente. E usavo i 23 canali e basta, invece molta gente ce l'ha messa, ha fatto contatto e fatto fare da tecnici, hai capito, è andata bene. Poi c'ero io nell'AES, forse perché non si fa poco, perché ritava o perché era montato male nell'apparecchio sbagliato e tutto lì. E niente, poi il primo baracchino l'ho comprato da cosa, 40 canali, da Adriano Pau, era il polo, l'Intec 410, e capite, poi da lì sono venuti gli altri, a me, però diciamo che l'ho usato poco, perché poi modulavo sempre nell'ambito dei 23 canali, capito, 40 canali, però la gente modulava sempre in quell'ambito lì, e quindi anche quello ho volato via a un tipo di parcali, dipende. E voi mi hai girato, già bello, sono anche qui delle esperienze, e che non trovi, diciamo, l'apparato giusto per la tua voce. Uno alla fin fine non c'ha questa passione, ma sempre la ricerca, ecco la verità, l'apparato giusto per lui. No, io mi sono trovato bene col Midland, ripeto, l'unico problema che ha, poi chissà un giorno andrò soldi, chissà, dopo lo vorrei portare per fargli mettere qualche filtro in modo da non avere sbalati tramite, diciamo, altre modulazioni in altri canali, ecco, l'unico difettuccio è quello. Poi per il resto, lo sto usando adesso, scusami, mi vado sempre delle buone soddisfazioni, delle buone, mi ha sempre funzionato bene, ecco, mi ha sempre operato bene, che ha una buona modulazione, questo. Sì, ok, no, ma va benissimo, il toccai ci avevo, però poi più di lì li avevo messi da parte, perché avevo comprato il Concat 25B l'ho comprato, allora poi ero, diciamo, prima di sposarmi si è attaccato questo, perché questo baracchino costa, che era passato in un sacco di mani, era passato, e l'onore della favola, questo lo stavo cercando per aprirlo lui, e oddio, ce l'ho, me ne devo sposare, e se non vuoi, ho detto, te lo sovando in cambio di un buon altro 23 canali che non sia, che me lo metto in macchina, hai capito, e basta, e va, ecco, c'è un Polmar 23 canali, va bene, dove il Polmar dico quello, poi e altrove da un Polmar, hai capito, avevo comprato un coso, un pace a 40 canali, però a 40 canali coi quarti, hai capito, secondo me era molto bello, e poi quello lì non so che fine ha fatto, Antonè. Mi è sparito quell'apparecchio da casa di mamma, che l'ho lasciato lì, sparito, ha commentato i due la stessa cosa, o è stato buttato o se l'ha preso qualche uno, perché poi quando ho sposato era nato subito Ottavio, hai capito, non avevo voglia di modulare, lui in affitto lì, non potevo mettere l'antenna, anche perché veniva male a salire nel tetto lì, e nulla, vabbè, finché poi, diciamo, ho comprato un altro baracchino, ho comprato una HP23, che anche quello poi ha fatto fine brutta perché l'ho portato a Mores da questo amico che è anche morto tramite Giro Vancuno, e niente, era sempre così, da roba, ci modulava nell'ambito dei 23 canali, e allora usavo il Tokai, usavo il TAC, sembrava un radio elettrico, finché un giorno cui era rimasto in garage, che hai capito, quello che ho portato in casa e non funzionava più, e ce l'ho sempre in vetrina, e poi da lì ne ho comprato un altro tramite pompugno da coso, da questo Stefano, e che ce l'ho, quello funziona, e poi sono venuti tutti gli altri, così mi ha regalato le baracchini di Dino, Betaferre, Buonanima, che è molto da poco, e baracchini non hanno, per collezionare ne ho avuto un po', quelli inuiti, da Mario, e dei, quelli piano piano sono riuscito a fare, però a dove, sempre nell'ambito dei 23 modulati. Vabbè, all'epoca sì, ti volevo chiedere, quando quella persona ultimamente ti ha regalato quell'apparato, dice che era più di 20 anni fermo, poi mi ha detto c'erano altri due apparati, tu non ti ricordi che modelli sono, non mi ha chiesto a vedere se te li dava. Vabbè, no, l'ho detto io, lì diciamo ci deve essere un tempo che preciso al contatto, ma bisogna vedere se non l'hanno fatto fuori, quello c'è anche la direttiva, mi ha detto Claudio. E lui ha trovato questo Antonetti. E lì era pieno perché ci avevano i taxi, ci avevano apparecchi di quelli lì a 23 canali, ci avevano e capito, poi da casa modulavano sicuramente o con questo, fratello mi ha detto già, io ho un tempo da volare così e modulavamo, però poi non lo so se sono altri due fratelli, se quanto tempo hanno fatto fuori, Angelo mi ha detto che non ha trovato, che ho fatto quello, me l'ha subito dato, Antonetti. E niente, però devo chiedere Alessandro, hai capito, però se il valvolare Antonetti è rimasto fermo tanti anni che era lì a dove furiarmi, perché hai capito, il coca te l'ho portato a posto in garage, è rimasto un paio di anni lì dentro, quando l'ho riportato in casa non andava più, lì partono i condensatori, partono le valvole, hai capito, preso quel coso che c'è adesso, ogni tanto lo accendo e ci modulo pure, te l'ho fatto anche vedere, l'altro da sistemare, però e subito non ce ne voglio spendere sopra, hai capito, perché diciamo che anche su internet ce ne sono, mi hanno detto, a comprare. Come si chiama? Devo digitare contact così? Contact 25B. Contact 25B, perfetto. Quindi direttamente c'è anche, ce ne sono anche in vendita, così. E prendi come sono di quegli apparecchi? Beh, c'è il tempo, come ti stavo dicendo, c'era questo mio amico, 200 euro ti chiedo minimo. Funzionanti, senza farne niente. Non lo so, come funzionate, dicono, quindi io mi sono visto un tempo, non è proprio come, perché basta, me ne devo comprare altro, non l'ho preso, però un 300 euro minimo ti chiedono. Ma sono curioso, perché non ho neanche idea di che formati ha queste apparecchiature qua. Non l'hai visto il Mossad qui, non l'hai visto il valvolare. Ah, quel modello come il tuo stai dicendo. E il tempo invece? La mascherina, il tempo e il contact lo stesso, mi è preciso identico il meccanismo, il tempo e il contact. Ah, ecco, perfetto, no, capito, ti piace per me, sono degli apparati a produzione, sono una sola porca figura, A 110 funziona, ci vuole l'autotrasformatore a 110 funziona. Ah, non è direttamente con la presa, con la spia direttamente alla corrente, ci vuole il suo trasformatore. Beh, chi te lo vende, te lo dà per forza. E c'era invece il coso, il 35B, quello lì funzionava direttamente a 220, però gli altri funzionavano tutti a 117, vabbè, io trovo il coso originale suo, poi ci potevo anche mettere a 125, non succedeva nulla. E niente, anche io guardo su internet, ne vedo, mi chiede, ecco, però mi sparo 200 euro, come hai capito, 200 euro è mela, un preso per un vestito canale, non c'ha neanche le prove laterali quello. Perfetto, aspetta, io sto scrivendo, Contat 27B mi ha detto, Contat. Allora scrivi Contat Lafayette, no, prima scrivi Lafayette, Contat 25B. Ehi, aspetta che provo, che c'ho il computer di mio fratello, Lafayette Contat 27, no, questo è 25, riesci a vedere? Sì, poi dice, la Fayette è pronta a 25 B. Tube, tab, stazione CB su bene. Aspetta un po', che ti dico subito. Tanto mica c'è un raffreddore allucinante, allora. Non mi fa vedere la città. No. No, aspetta un attimo, non mi fa vedere le immagini. E vai su una, ma anche io ce la fai da che non si sta facendo tu dalla radio. È davvero, ma ultimamente c'è molta gente che è stata presa. Prendo la cosa influenza e sono un po' raffreddato, la verità. Mal di gola, non si sente anche poco quando parlo. Cioè, ma io non ci ho scritto nulla, me l'ho preso in casa allora. Ah, oh, vabbè, perché c'è freddo. Ok, vedi le immagini, guarda che lo vedi. Dove scrivere le immagini, vediamo un po'. Ho ricliccato di nuovo, no, allora posso scrivere. Scrivo direttamente B, direttamente. Immagini, vediamo un po', ti dico subito, dovrei far vedere, ok, vediamo un po', confesso, no, ma era, mi viene forse immagini di chi, no, aspetta, non posso verificare qualche altra cosa, no, lì non me lo va. No, vai su Google tu, come da fare Google scrivi, cosa, come dici tu, mi puoi scrivere, ricerca, tu prendi immagini. Allora faccio là, aspetta un attimo, te lo dico subito, faccio passo per passo, allora, ok, corta 25.000 Lafayette, perfetto, vedete sta caricando, adesso mi chiedere, eccolo qua, e c'ho qua, allora vediamo un po', lo troviamo, allora, e solo uno me ne fa vedere, mi corta, e poi vado a cliccare e non mi fa vedere nulla, no. No, non riesco a trovarlo già. Mi fa vedere proprio fa tutta roba in inglese, non si comprende nulla. Come lo stai cercando? Su Google lo stai cercando? Su Google direttamente, sono andato su Google, come adesso, adesso lo scrivo di nuovo, l'alfaiete, la, aspetta, i, eccolo qua, F, poi, con, come tot vediamo la risposta da fatturo T 25 ok B vediamo un po' se me lo dà risetta pronta per alfaiete vediamo un po' sta entrando aspetta no già guarda c'è alfaiete e poi non riesco a trovare solo immagine nulla di vendita. Alfaiete, pubblichi, nulla, oh, non riesco a trovare la verità già. Ho tutto scritto in inglese qua. Oh, no, non riesco a trovarlo. E poi ho fatto sempre su Google, no? Come scrivo me lo da subito, faccio, scrivo la Alfaiete, come dico su Google, poi premo immagini, come quello di Google in alto. Aspetta che riprovo, come hai detto tu. Allora, quindi tarando, Alfaiete, allora, le scritte sono, allora vediamo un po', la CD Alfaiete in Texas, che mi fa vedere, il Venus, confronta Frigge, vabbè non mi interessa, il Venus CP 40 canali, Alfaiete, Alfaiete Apollo, però il modello che metto tu, non riesco a trovarlo. Cosa mettere? Baracchini vintage, vintage forza come di 5B, metti, baracchini vintage forza come di 5B, adesso lo adesso. E qui già ce ne sono tanti estero, vediamo un po'. Allora, qui mi sta facendo vedere l'Unguino Hit, 195-40 canali, quindi è portato, il CB2 anche 2006, il Vintage Pony, CB50 che è scritto, ma è vinto bellino questo, Baracchino Apollo 23 canali, Vintage Pony, 35 euro lo paregato, Pocanoma, c'è Shell, sì, Baracchino riparatore manuale, sono questi, aspetta, mi sembra un tagliente, chi è questo? Aspetta un attimo, allora, È bellino questo, Valentino Modena di 3 canali, vintage Puni, molto particolare, non so se ce l'hai presente. Cosa sta facendo il computer mio anche, che ti guido io. Eia, e sta facendo vedere questo, però sono viene entrato direttamente su eBay, non sono molto pratico di internet, la verità. Partire su Rushu, quindi vediamo un po', poi lo facciamo vedere questo, non sa niente, il Telsat 924 CB Barattino Vintage del 1965, dice contatto all'utente, ed è abbastanza, molto molto vecchio, Regione Sicilia, provincia Palermo, e cioè dice qua dice trasmettere di stregare portati, ottimo CB vintage, ottimo fatto, non dispongo del microfono originale, smarrito nel trasloco, c'è anche annuncio al numero e il numero di telefono se vuoi. E il prezzo qua non te lo dice, veramente carino come degli apparato. No, ce l'ho, l'ho comprato anche io, la conticerò col baracchino che compro da Continente, quello mi ha tolto, quella che stai prendendo tu, 924. Comprano che bello, mi comprano che esce una bomba quella da me. E c'è lì il contatto all'utente, dunque c'è anche il numero di telefono. Bisogna vedere quando lo vede, è molto carino, è veramente bello, mi piacciono quei tipologi di apparati. Uno mi si sarebbe piaciuto averlo, per avere la stazione via completa. Poi tanto se non c'è il microfono come è, intanto l'ho dato io, cambiamo il mio, che sono cambiato il connettore, tanto il microfono suo è vicino a quello della cambio 23 ed è a spine, io gliel'ho cambiato, gli ho messo il connettore a 4 e lì ci metto il, ci picco il partner, però ti possono se lo occupi a fare l'MB più 4, non sai come, come te tocca la consumo lineare 131, lo devi vedere e per fare. Quel baracchino lì cos'è? Valvolare o trasferizzato? A transistor è quello. Quello lì, mi piace molto, veramente è bello. Sono grande in internet. Infatti stavo sfogliando nel frattempo e sto cercando altro, adesso ne ho trovato un altro. Aspetta che blocco il microfono, ok, ma questo non è il vintage, però vediamo cosa dice qua. CB, CTS, SB 350 vintage, 140 euro stanno dando. Un CT International, ma non è che sia il massimo. Non è vecchio come intendo io. È come la tipologia del Midland alla fine. Solo c'è la mascherina nera con i bordi rossi. CT International si chiama, 140 euro stanno dando. Esatto, senti qua. Te lo dico io, un bel baracchino, con uno è buono, te ne faccio comprare, bello, e poi ti vanno a comprarne molti, hai capito, io perché sono collezionista, capito, non compro altri però, capito, e poi ce ne sono, pigliane uno, ma bello, che sia dell'epoca, no? Infatti, intanto vedi già, ci passerà a vedere un annetto buono finché riuscirò a trovarlo, se non trovo quello così nel frattempo, piano piano si mettono gli spicci da parte se ce ne sono, come ho sempre fatto. Dunque, per averlo ricevuto ci ho messo quasi un anno e mezzo, per trovarlo sono contento, ho aspettato poi se ho trovato qualcosa credo che mi interessava. E rimane in qualche aspetto finché capo si trovare sì per avere completo un vecchio apparato di vecchia generazione ma perfettamente funzionante, non è che se lo trovo e già ce ne sono state perché ce ne piacciono la DSL Claudio perché era spenta infatti guardate c'è un portatile ce l'ho sopra un attimino che me lo porto qui il computer sul banco un attimino come non ce l'ho una parte aspetta appena yeah. Fa vedere questo apparato, mi sembra strano, 2 euro, ma quando mai, vediamo un po' cos'è questo, apparato GP Vintage Inuiti R195, 40 canali, 2 euro, no, mi sembra strano, vediamo un po' Toscana, e si dice così, apparato CD Inuiti, tenuto come baracchino da battaglia per le comunicazioni locali. e battaglie di affacoltate perfettamente funzionanti. A richiesta aggiungo un microfono al Fayet amplificato €10, il prezzo non è trattabile, €35 solo apparato, oppure €45 apparato più microfono, l'apparato sarà dando a €35 solo apparato, oppure €45 apparato più microfono e ottiene 2 foto per invece 2 apparati, ok. Lo stava in tutto questo €35, questo in Luigi R195 40 canali. Sono collegato, aspetta a vedere, dunque torniamo in descrizione, ancora andiamo su immagine a vedere se riesco a trovare la cosa che dice qui sulle prime che nulla, però su immagine me lo vedo la percorsa, allora vediamo un po' se andiamo indietro. Allora andiamo in immagine, sono te, non sono me. Eccolo, ma lo dai in immagine a come? Non è subito malato. Aspetta che vado direttamente su Google, così scrivo. Fai il culo, guarda tu. Ecco qua. Allora, tac, vado su Google, ce la faccio e mi dice cosa devo scrivere. E scrivi la Fayette, cosa come dici qui di? Sopra Google prima immagini. Già che ho sbagliato, c'ero quasi, porca miseria. Ok, ma non ci riesci, quando ti appare Google, dove ti scrivi quello che ti ho detto, poi prima immagini sopra, su Colomeo. Io ce l'ho fatta già, ora da ora, e non sono pratico, guarda, no. È più forte di me. Sì, immagini. Che ce ne fa vedere uno sopra il divano, è carino. Sì, riesce a vedere, vediamo un po', sopra c'è anche un microfono di quelli da tavolo, uno che c'è anche, diciamo, la cassa in verde metallizzato, è carino quell'apparato, molto vecchiotto, cos'è, valvolare questo, giusto? E prendiamo quello che ho io, allora, guarda, ce n'è uno, la pagina 3 apparello che sta, la pagina 3 è quello che ho io. Ah, ecco, capito, sì, già. Bello, molto bello, sì. Si vede che di vecchio stampo è, porca miseria. Guarda sotto di lui che c'è anche il tempo, lo vedi il tempo? Sì, sì, ho capito quello che stai dicendo, sì, sì. Io ne ho uno, mi tengo un altro tempo così, però non posso far mettere a posto, hai capito? Non ce n'è problema, Pure un'amica mia ne ha 4 di quei a Sassari, però non riesco a rintracciarla, hai capito? 4 ne ha di quegli apparati, non so come cacchio li ha recuperati, però so, lei modulava con Tonsat, modulava, e ne aveva altri, poi hai detto 4 ne ha già, a quanto sicuro te lo dico, ma me l'hanno detto già, questa roba più di 20 anni fa, hai capito? E niente. Comunque sono tutti precisi, tu quelli che vedi il tempo dentro, preciso vedi qualcosa per me. Capito, poi diciamo, lui ha per forza bisogno del suo trasformatore per andare, giusto? L'autotrasformatore ci vuole a 100, ma quello è una cazzata, mi ho regalato uno anche a Claudio, già si trova quello, ma poi te lo devono fare col baracchino, hai capito? Perché se ti dà il coso il baracchino ti avrà anche l'autotrasformatore. Quello sì, bisogna vedere, adesso in questo momento vabbè, sto vedendo le immagini, adesso bisogna cercare il sito in cui ci sono in vendita e quanto li stanno vendendo, capito? Sono con l'esercizio CVCG e MyCom, forse lo stanno vendendo questo da me, è sopra un tavolo, questo vai, quello che c'è scritto pagina 5, guarda, alla destra ce n'è uno, se scatti il coso, oppure lo stanno vendendo quello. Se provo a scrivere quello che si trova, poi ci scrivo vendita, vediamo un po' se si riesce a, ti fa trovare qualcosa, vediamo un po', sta caricando che, via la città, no, mi sa che, musicali, no, c'ho scritto la Fayette costa 25.000 vendita, ma non me ne dà. Ma non beh, alla fine sono 35 euro l'ho e poi sono entrato un altro sito, il Conqueror 2, e io ce ne sono pochi già. No, secondo quello che critico, guarda, te ne fanno una marea, ma sono veramente tanti, guarda. Che della paglietta è corta 25B, vediamo un po', provo a cliccare questo, cosa gli fa vedere. Il contatto è 9 kit, eccolo qua, c'è questa immagine, vediamo un po', no, solo immagini sono. No, è molto carino, eh. Sarebbe bello, sai che cosa, già trovare qualcuno che ce l'abbia qua in zona, in modo che tu lo puoi vedere, toccare, poi giustamente decidere il prezzo, ecco. Sarebbe bello proprio averlo in mano prima di acquistarlo. Sai, con l'Inter c'è sempre il punto di domanda. Se sono quasi, aspetta, sono molto lente queste cose. Ok, aspetta, che ci sto arrivando. Fancula mia, ui. Cosa so diavolo sono. Lo sono fatto per il computer io, vediamo un po'. Sì, sì, già hai ragione, sì. Aperto dentro. Va bene, sono come, se riesco a ringraziare a Gianni, quello che mi ha venduto il conto, mi ha dato un altro da. Da riparare giustamente non ci vogliono una barca di soldi, sì, ma a un prezzo giusto, un prezzo giusto, equo, con la scusa che devi anche ripararlo, perché no? Sempre sperando che sia una cazzata, ecco, non ci devi mettere una barca di soldi. Prova a chiederglielo già e poi mi fai sapere. Le valvole ce li affusano tutte di quelle dell'apparecchio, le valvole ci sono affusano già, poi cerco. E già questo che modello è? Ti sai che vicino c'è uno con gli occhi tappati? Sì, esatto. Allora quel baracchino ti piace? Giovanni a Figa non è uno di quelli, lo sto prendendo 80 euro, quelli usano negli anni 70 da 10 watt, io ne ho uno che non funziona di quello, lo volevo comprare io da Giovanni, ma tu mi dà. Cos'è, valvolare? No, a transistor è quello com'è. Ah, transistor, secondo te com'è il prezzo, com'è? No, il prezzo è buono, anche è anche accettabile, il prezzo è quello, però non è valvolare, capito? Il valvolare è come altra cosa, quando attacco il torta c'ha un audio molto bello, e la valvola è sempre bella, ci sono tantissimi qui, però sono altro me che sto guardando, sì, questo lo sto vedendo, ascolta, ed è funzionante quello che c'ha Gio Maria, così, tu non sai se è in perfette condizioni. Io sono scrivere bene, inglese, dunque riesce tranquillamente a comunicare, ecco, alla fine. Sì, la maggior parte sono lì, però è sempre pure il discorso, già, è bello sempre fare una ricerca qua in zona, il modo in cui tu ti siedi in macchina, viaggi, lo vedi davanti a te, lo tocchi, valuti un po' la situazione nelle condizioni in cui si trova. Dunque la cosa migliore per queste cose, diciamo, degli apparati usati, sempre meglio averli in prima persona, ecco. Quindi il discorso è sempre a scatola chiusa, sempre con la paura di essere fregati, è quello il discorso, io la penso così, Quello lì è chiuso, anche me, però quello che c'è a Gian Maria funziona ma parecchio, non l'ho visto, cioè effettivamente il mio è nuovo, c'era la fai roba e non me ne frega nulla, però diciamo quello di Gian Maria funziona e ne vuole un'ottantina, ne vuole, cosa ti posso dire, io stavo anche detto di acquistarlo, ma ne ho pochi, non mi interessa, se vuoi te lo lascio a te, capito, non ne ho problemi, però dei miei non neanche uno esce, capito, ormai mi sono bloccato, non è contro, ma come do, Antonio, hai capito? Però quello lì se è un transistorizzato da 10 watt, è un apparecchio degli anni 70 e fa la figura sua, Antonio, però il costa è un'altra cosa. Giustamente le valvole fanno la parte loro, non ti preoccupare, anzi, sicuramente qualitativamente parlando è meglio quello valvolare, c'è poco da fare. Infatti quando si tipo a, come si chiama, amico di Porto Torres, a Pannau, non mi ricordo il nome, attaccava quell'apparato valvolare, era impressionato, una modulazione, guarda, bella, perfetta, dava proprio la, come si dice, ancora su Romania, ma comunque c'è una bella popolazione, picchi allucinanti, guarda, si sentiva veramente bene. Quella è la cosa che aveva, sanno, stai dicendo, le FT 101 ZB, che ne avevo uno sotto mano, una parte di Magazzino, lì a Porto San Giorgio, stavo anche per acquistarlo, ma poi a come il temi indebrato del tuo, un'altra cosa, rosa, pomato, e niente, poi non ho preso, ne ho troppi, mi basano quelli che ho, hai capito? E se no, il 9, non la fino chiuso, è come se la macchinetta mia, come, mi basano quelli che ho, l'unico faccio una vetrinetta e basta, non me li chiuso, però tu, capito, che non è niente, tanto me, se lo compri uno, mi cerchi un toccare qui, come quello che c'ha Gianni, sa vedere? Un toccai stanno vendendo, anche quello lì è da comprare, mi ha detto, quello è un, come si chiama, un bel apparecchietto, il toccai. Io ce l'avevo, però avevo dato scambio con altri apparati, ce l'avevo un toccai, è bellino, non è male come apparato. Ok, che l'avevi dato un toccai? A Gian Paolo di Porto Torres. Quello lì era un bel apparato, hai visto? Cioè come si chiama suo, c'ha la figura sua, fa, hai capito? Quello è, non lo vuol dire, era da tenere il toccai, era molto bello. Io te l'appoggio. E lo vedi, tutto 3 ore. Insomma, 3 ore siamo a voce chiamandoti. Aspetta, non capisco la cena, avete fatto in 2. 3 ore chiamandoti a voce, sei finito dentro il letto. No, sono uscito, sono andato a bere una cosa insieme a Mario. E sto appena rientrando. Ma come Mario, quello che mi avevi detto che c'era quelle antenne famose da parlamobile, quello lì, no? Esatto, sì. Ok, una polvere mi interessa a me se ce l'ha. E se ce l'ha, volentieri te la faccio fare. Non so se ce l'ha per la verità, perché non l'ho controllato ancora. Ciao Tango, buonasera anche a te. Ciao Pompo, buonasera e ben sentito. In giro è lei, lì non a quest'ora, complimenti. Beh, sono uscito stasera, me la verità. Sono andato un attimo al circolo, abbiamo una birra, dopo che ho fatto cena. Cena, l'ho fatto adesso, la verità. Sono stato in giro, a piedi. E poi con lui a farmi un giretto lì da un circolo all'altro, però proprio nel caso siamo a posto in realtà. Oggi hai fatto bene, dai, scommetto un caffettino e una sì. Domani, va bene, ma hai giubito? Da solo? Sì, adesso sono da solo, la verità. Mi sono da solo poco fa. Non in compagnia. Già va bene, dai, no, niente, stiamo parlando di... Mi sarebbe piaciuto avere un vecchio apparato dell'epoca, ecco, stavamo parlando di con Gianni di questo discorso. Dunque, se conosci qualcuno a Tolè che ha vecchi apparati in perfette condizioni e a prezzi abbordabili, mi fai sapere. Così guardo, valuto un po' la situazione, quando è il momento, vedremo di acquistarlo. Ne conosci qualcuno? Tu chiedo, come devo fare gli apparecchi vecchi, la verità, non lo so, e mi siete cari, come fai? Io lo regalo quelli di solito. Ah, ecco, allora ce l'hai un 23 canali da regalare? Un 23 canali da regalare ce l'ho, ma devo solamente ritirarmelo. Ma come te lo fai, la verità? Non te lo fai proprio niente di 23 canali, meglio un 40 o cos'è? Un 120, cosa ne so, un Viking 2, un 93. No, mi sarebbe piaciuto averlo per avere, diciamo, la mia stazione completa, dai, alla fine, anche se 23, 5 canali, non mi interessa, mi sarebbe sempre piaciuto avere una tipologia di apparati vecchi dell'epoca, tutto lì, mi serve per la mia stazione, ecco, perché ormai la sto creando a modo mio, tutto lì. Uno solo, me ne batterebbe uno di vecchia latta, ecco, che funziona, bello, perfetto, ce l'ho qua davanti a me, capito? Solo per quello. E basta, e poi non ho bisogno di altro. Io non mi accetto a quelli, non ti preoccupare. E io sento come quanti ne vuoi, pensi nel canale. Come trovare qualcuno che ce l'abbia qua in zona, e devi toccare con mano, Antonè. Valutare, guardarlo sotto e sopra e poi valuti, ecco, tutto lì. Sì, va bene, già c'è parecchia gente che c'ha anzi no, 93. Di solito gli auci c'hanno 40, 120 canali, anche 200 c'hanno, per quello che mi ricordo io, quindi. Vabbè, comunque, ti diamo, qualcuno magari che ce l'ha, ma non se ne fa nulla, te lo faccio regalare, qual è il problema? A me non me ne frega proprio niente dei 23 canali lì. Gianni Rosa, se mi capita che qualcuno ce l'abbia, lo sto dando, te lo faccio avere a te e a lui, non c'è problema per quella, non cambia niente la cosa. A me proprio i 23 canali non me ne frega tutto niente, la verità, mai me ne ha fregato niente di quelli. I 40 canali sì, i 40, 120, quello che è, quindi mi piacciono, però voi 23, no, la verità non mi interessano quelli. Allora anche un vecchio apparato, neanche per lì, neanche 40 normalmente a quello, basta che sia un vecchio apparato, tutto lì, poi se 23 è uguale, là, da potere anche di un 23 a voglia. Se ti capi Antonio, ti ringrazio, fammi sapere. E va bene, non c'è problema per quello. Avanti Gianni. È l'unico che ti ho detto, se vuoi un bel apparato alla base, quindi è quello che c'è Don Maria, è un bel apparato, il traffico la sua, mi andrò me, è bellino quell'apparato, E va bene, quello già gli approfitto, comunque non volete più il giorno che già ce l'ho, se lo dovrei avere, quando è il momento, sì, lo chiamo, sempre se non l'abbia venduto, comunque appena lo sento le vedo un po'. Però perché mi avevo proprio sullo scambio, mi dava il 40 come me la tenere, però non il suo, il baracchino, lui è stato incaricato della vendita e hai capito, e poi ce l'ha ancora, fino a pochi giorni fa ce l'aveva, e 80 euro e ce l'hai, insomma, ne aveva parlato l'epoca. Scusate, mi andavo per accompagnare mia figlia a letto, che stavo a fare la nanna, arrivo subito. D'accordo. Si tratta di quello da base, mi sono mercantato le base. Sì, se accompagnare solo la bambina a dormire. Beh già, come va, tutto a posto, sì. E qui sono, mi ho messo un intorno, ho aperto il cassetto, ho preso le compensate, ci ho messo il computer sopra, portatile e il microfono, perché ce l'hanno distante, poi la DSL arriva laggiù, tramite senza fili, perché l'altro ce l'ha. Il grande c'era Claudio, il computer lo aveva per lui e niente, io sto usando il portatilino qui sopra, e se no bisognava andare un'altra cosa, ho venuto questa idea, ho preso il compensato, ho aperto il cassetto del capo. aziendale e poi te la scegli tu quella che ti piace. È una di quelle di macchina mia, una cui mi stavo cercando giusto per aperta, capito mai? Capito? E non è ecco, quelle delle mani c'è pure, capito? Ce l'avevo la bocca, la bella bocca, la conservavo da una macchina all'altra, poi l'avevo andata a questa persona e sì, in maniera molto che per di macchina. Il 91 lì, se a casa sua ce ne deve essere qualche nuova, perché ce ne collezionava a me. Ma non ti sacco perché per me è ancora vivo lui, cioè se sacco poi mi avevo fatto una lettera alla moglie di due pagine, però a salirci a dove mi dà trista e meglio che non ci vada. E vabbè, ma io non sono quel tipo che va cioè, a cercare la roba in casa dei morti, la verità, non mi piace a me. Finché ti telefono per dire la persona giusta, dice guarda, Natale, di questa roba il mio marito non ne faccio niente, vendi, ma è un discorso diverso, ma andare così a casa sua a fare il... come fanno un sacco di persone, no? Non mi piace a me di fare il... non lo so, mi dà fastidio, capito? Mi trovo male, è come andare a rubare la moglie di un altro quando è morto, no, non mi piace, non lo so. Non sono fatto così io se una persona muore, finché lui dice lui, lascia questa roba qui, come di vai, lanciati, dalla lui non c'è problema, ma andare a cercarla non mi piace, mi dà fastidio, mi trovo male, no? Mi viene da se hai capito una cosa, fare una cosa del genere, come ti arrivo un amico, capito? E quindi non mi interessa niente, no? Non ci sono mai andato io a fare queste cose qua, la verità. Non mi è piaciuto. Oh, neanche non mi prendevo come. No, ma manco se mi chiamano lì ci vado. Cioè stiamo dicendo, non ci sono andato manco a vederli a farli. Cioè ho mandato una lettera così, cioè non mi permetto, manco se me lo dice lei di andare, già vieni. Ha detto, no, non la penso come stai pensando tu. Ma ho detto che non ci ho mai salito da quando è morto Giovanni, proprio perché mi fa male, capito? E niente, la moto fa amici a me. E così. No, poi il coso me l'ha detto Mario, che se c'è, capito, no, mi ha detto che c'è il pollo, giusto per averla mi se ce l'ha, hai capito, perché lui macchina per me non mi buco, non mi può la fare meglio per mettere a te, non ho pensato, no, ma la volevo avere così per uno scherzio mio averla, hai capito? C'ho tante cose, ma un antennino del capo, ho detto non ce l'ho per l'epoca. Vabbè, quello già non c'è problema per quello, magari ce l'ha e te la piazzi, però per dire a farla brutto io, non è piaciuto a me, se non una persona non vado io, dalla moglie, dalla figlia, per dire a chiedere niente, non mi piace, no, perché magari lei, come mi fa la moglie, guarda che non so cosa fare di queste cose qua, allora c'è tu un discorso diverso, però andare proprio a prendere, a sottrarre la roba a un morto non mi piace, no, non mi è mai piaciuto, sembra di essere un coso, no, io non mi trovo, non mi trovo io, già, la verità, io sono fatti gli altri, diciamo, con la faccia di culo e come si dice, quando c'è la faccia di culo non capo, diceva quella, e quindi le cose le fanno, ma io non ci sono buono. Io sono fatto così, a me se un altro invece muoveva per dire mio cugino mi ha fatto quello che c'ha, per dire un televisore a colori, di quelli che mi hanno pagato 20.000 euro, non ci parla a chiedere niente, non me ne frega proprio niente. La verità, no, balla me la copro di una roba per i fatti miei e discorsi diversi. Sono fatto così, anche se prima da amico, parente, quello che, non ci sono buono a chiedere niente, no, mi dispiace parecchio quello che è. Però sono fatto così, io non ci riesco, già. No, ma infatti io non lo so chiedere, io sto parlando di Mario, che Mario mi ha detto che ne ha una cinquantina di antenne di barra mobile, l'ho chiesto a Mario, hai capito, e mi ha detto che mi faceva vedere se ci aveva qualcosa che mi interessava. Io so, Mario il discorso che se Mario vivo, ma sto parlando di Mario, come le baracchini, come stanno gli altri, dei morti, non mi piace a me, assolutamente non mi piace, no. La verità, guarda, come se dovessi crepare io, non è che tiene un principio e mi potrebbe portare via gli 80, no? per dire, il barattino va e lascerò ai dritti quello che è, però ci vino assolutamente, no, non lascio io. Mi parlo di avventuri, quindi niente da fare. È meglio che Simone se lo venda per dire, anche per, come posso dire, 200 euro di spesa, quello che è, però hai cibi nulla, per dire. Non farlo, è brutto fare una cosa del genere, la verità, no, è veramente brutto. Se abbiamo voluto, no, non esiste, no. Euro, 100 euro, non si è scattato come fa 200 euro, Ma vai, vai, lasciamo vedere, tutti dimmi. Questo è il 35, 35B, quello che funziona a voi 120. Il mio funziona a 110, forse sono i migliori che hanno fatto a 117. No, questi anche con l'intensa, 250 io, ma non so bene nessuno. Perché ma qualcuno mi ha detto, Bulldozer c'era questo sito dove poi ci sei collegato, lineare, CB lineare, dove avevano quei baracchini, uno di barra mobile e una LAN 48 che 600 euro a com'è. Dai, mi ci butto subito così, ho fatto indigni. Date la voce, no? Per quello vado con la donna, che è meglio, guarda, almeno mi diverto. Non ti basta. Ce la faccio a spendere soldi così, ma c'è scherzato. Non mi piace a me. Io sono fatto così, te lo sto dicendo. A me di avere 500 baracchini a spendere soldi così non esiste, no? Preferisco andare a donne, mi diverto, almeno ho 15 minuti di, per dire, per 50 euro. Ma almeno mi diverto. Godo almeno, no? Capito? Poi magari me lo porta anche gratis in domani, perché se ci vai tutti un giorno su un giorno te lo va gratis per almeno una settimana. Il discorso è quello. Cosa c'è con barattino? Te lo compri, lo metti lì a casa tua e lo tieni. Cosa sei fatto lì? A fare che cosa? La crisantemo, no, non esiste. No? Ok, ma fa per scelto, ma Giovanna Paracchino dove piazzare? Sì, sì, c'è una testa questo apparecchio qua, è suo questo. Perché me la cosa è che io non me ne ricordo come è modulato, non ho avuto mai occasione di parlarci. Sì, sì, pensa a questo, questa è roba sua, questo apparecchio qui, c'è anche l'antenna, c'è anche l'alimentatore, c'è tutto lì, gli ho regalato tutto io, figurati, e sono il fratello, figurati tu. Lui abita in pratica e via Europa, mi sono ricordo male, abita la mamma. E hai sopra del fondo, mi sembra, della banca. Esatto, sì. Sono tanto che già ci andavo quando si trovava a Calvino, ci andavo, facevo una motosuonata a fisarmonica, all'epoca ancora la suonavo, quindi aveva una che non so chi ha chiamata, hai capito? Ci divertivamo. Già la conosci, visto, non ti preoccupare, appena entra, baracchino, c'ha tutto, perché no, io ho regalato tutto io, l'antenna del baracchino, la gameplay, c'è il baracchino, c'è il microfono pescato a tavolo, guarda che, l'unica cosa che lei c'ha da fare, l'alimentatore, con la voce da un fratello, un lucano, se mi ha avuto un lineare, mi ha anche regalato un lineare, per come la voglio bene, mi sorelle. Non me ne frega niente a me dei soldi, a me interessa ciò che lei sia contenta, che gli faccio un regalo e parli per dire. No, dei soldi, di quanto va la roba, non me ne frega proprio niente, non sono di quelli, cani morti io, come c'è un sacco di gente, che quando va la roba ai parenti, l'altro vai e gli fa pagare, non esiste. Una sorella, ho fatto un fratello nel 400. Io la roba non mi frega niente a me. A me le pago i soldi, non mi frega niente. Basta che mia sorella mi voglia bene, per il resto non la putti nulla. Ma tua madre si trova molto bene. Non ho capito. Tua madre è ancora in vita? Sì, la madre è in vita, voglia. Ma faccio ogni tanto, quando venivo lì, li controllavo, e ti stavo chiedendo per quello. No, già dico, non ti preoccupare, sei sempre lì. Poi adesso vedrai, appena per sei malati a casa, Giovanna, la sentirai tutti quanti i giorni. Ok, almeno c'è una faccia in più. Ah, cos'era poi entrato uno nuovo da Fissi, Giuseppe Scuscio? Sì, vabbè. casa mia. Quindi è venuto Giuseppe e dice, ma Giuseppe, adesso sono a casa tua, e sì, veramente per la salute a casa non ci è venuta, mi è scappata la camisa, la verità, mi stavo dire, stavo dicendo in faccia. E invece la guarda civica si è spacciata per lei, chissà casa di chi era o chi la quelle altre cose, capito? E se gli ha detto, cioè adesso passo Simone, gli ho detto, anche gli ho detto Simone, e poi Simone ha detto, lo sai come parla, gli ho detto. E quindi ha preso in giro un bel di persone, ma un bel di CB, gli ha fatti proprio gruppi, no, ma comunque sia, quello che è, li ha presi in giro, è strana la cosa. Ma Ussi? Ah, sa, dico da Ussi. Ma Ussi, la tra poco io parlavo con una che mi è baracchino, che si chiamava, anche Claudio Peranato. Aspetta, Zanaria, Calimero, te lo ricordi la com'è? Mica non ricordo, te per fare. Non avevo avuto modo di... Hai capito? Ma cosa è successo in questi giorni? Perché io un paio di sere fa, che no, 3 sere fa o 4 l'avevo con un credo di imbiancare un pezzo di pane e scatole erano staccate, però sono entrato lo stesso in frequenza. Non ho avuto modo di sentire donne, e anche l'altra volta a me una entrava così con là, e poi dopo il baracchino ce l'aveva davvero come in una di quelle macchine, tipo quella che c'è in una multipla, diciamo il CB Elena, c'era il baracchino davvero, entrava ogni tanto così con là e niente, ma non so se poi ce l'avevano mandata per pigliarmi per i problemi, era venuta, la stavo lavorando le carriere. Ho capito, no, l'altro giorno quando sono io da se mi viene in mezzo il nome, è entrata questa ragazza, si chiama Sabrina, e poi si è spacciata che fosse in pratica a casa mia, tutto lì. Poi ho detto a Giuseppe Leoncino, tu guarda che hai detto Giovanna, non ci ha parlato a casa mia, ho detto, infatti davvero. Poi gli ha detto, tutti erano convinti che fosse da casa mia, tutto lì, una volta anche io addirittura, baracchino, perché era così, li ha abituati tutti. Poi ieri sera è entrata, strano che sia entrata, cioè, mi saluta perché devo andare a lavorare e è sparita, capito? Non so che sia, non mi ha fregato per niente, se mi conosce non mi ha potuto di nulla, la verità. Ma comunque sia, una ragazza è entrata, è meglio così, sono contento, a me fa compagnia, voi sono che la battista si merita subito, quindi sono subito molti, cioè sono molti, si sono riuscitati molti, e sono state tutti quelli che non entravano prima, sono entrate, erano sempre una donna. E come avevo ragione io, se tu ci metti un paio di ragazze a baracchino in 2 giorni, e si riempie, ma si riempie di brutto il baracchino. Il fatto è che sento solamente i maschi e quindi c'è la bella moto di cercare qua, almeno non posso cacciare. E quindi a un certo punto si rimane come si è, fino adesso. Finché c'è adesso non c'è la pazienza, diceva quel. Ieri sera che non stavo cenando, quando invece il baracchino acceso, una stava parlando del baracchino, l'ho sentita io, una parlando, una donna parlando del baracchino, sono per giù e non sapevo chi era. E una c'era infatti, lo sento anch'io, è entrato proprio 2 minuti, ha detto ciao, sono a lavorare, ci sentiamo, ha detto basta. Poi non so chi era, la verità no. La verità non me l'ha fatto nulla. So che non so se il giorno prima o il giorno prima si è presentata come se fosse in pratica a casa mia, trattando da casa mia che fosse mia sorella, tutto lì. In pratica mia sorella è entrata in domani, già sentita anche oggi, quindi penso già darlo peraltro, perché non volevo magari che questa persona qui parlasse male a baracchino, se la abbiavano con me, e non mi sa male. Cioè tutti uno come sta a essere visto, si è parlato Mario fino a questo punto, che è scherzato, perché mi sono presentato io, tu guarda che è casa mia, non ti preoccupare, tu vado a posto, come ho fatto io. Mi sarebbe male che sentire male una ragazza che parla male, cioè c'è la casa di Alessio, ma fa il culo di avere quelli per dire, così è, non è che per parlare una ragazza di Baracchino, mi sento dire come 40 anni fa, no 40 anni fa, 20-25 anni fa, entrava la... strada di Porta di Giuseppe Cavura, dava gli appuntamenti a tutti e pensavano che fosse una ragazza che batteva e fosse a casa mia. E dove la vai? Non esiste, no, ma non voglio fare quella fine io. Finché una entra a casa sua si presenta va bene. Quando poi si mette in casa degli altri non mi sta più bene a me. Allora bisogna, come si dice, sbugiardarla e basta a un certo punto. Lo scherzo è bello quando dura poco, finché diceva, sto scherzando, sono a casa di Alessio, sono una che è nuova, per dire, sono a casa ospite di casa di un altro, mi sta anche bene. 10 minuti o 4 ore va bene lo scherzo, ma quando comincia a farlo un giorno, due giorni, tre giorni, alla fine ti si girano o ti si girano o già. Qui a Parigi non ne ha mai toccato nessuno, ma manco quando ero da mamma, che era mia sorella, ma non si è mai avvicinato, ma manco, però ho toccato di Monca, allora c'era il Monaco, la Monca di Roma, come mai toccato di qualche volta che ci avevano fatto l'apparecchio in macchina, mamma, perché si preoccupava, no, c'erano cellulari, no, come, questo, quando si arrivano a tal punto, ti chiamo, Maro, che andavo molte volte, allora stavo lavorando all'epoca, con una ditta di chiesi, capito, di serate d'inverno, hai capito, e mi chiamava mamma, no, hai capito, ma nell'attimo mi sto arrivando, per esempio, a Campomera, là, e basta, ci affacciava pure, però mia sorella pure, mai si è permessa a toccare niente, mai, me l'ho anche detto, perché non parli alla radio, perché ho mai toccato pure radio. Questa cosa, quello che è successo a me, la verità, io quando parlo a Giovanna, gli ho detto sempre, lui è barattino, tranquillo, non c'è problema, e fai parla con chi vuoi, fai dare le amiche tue, basta che non offendano nessuno e siamo a posto. Invece è successo l'altra sera, tutti erano convinti, tutti quanti, la prima all'ultima non fosse a casa mia, e quindi quando ho detto Giuseppe che non è mattina, passa 10 e mezzo dice Antonio, dice c'è venuta tua sorella a casa tua, ho detto non c'è venuta la mia, dice che era lì, dice stava parlando tua sorella, ma cosa sta cazzo lì c'è venuta, infatti così è sotto per Giuseppe, lui era convinto anche come gli altri che fosse, come ha fatto come anche Gianni ieri sera, che fosse una ragazza a casa mia, vedete, figurati tu. Quindi è strana la cosa, hai capito? Finché non c'è ieri sera Giovanna, ha detto, questa è mia sorella, ha detto, sta parlando adesso. Dopodiché che è stata quella ragazza di ieri sera, è entrata, mi ha fatto un passaggio solo, e ciao, ci sto andando in condizioni perché devo lavorare, voglio dire. Capito? Comunque tutti erano convinti di che fosse a casa mia quella. Il luogo di lui. Io si ha sentito la madre era giornata che stava con la voce d'anno, ma che stava parlando, però la conoscevo, non hai capito, non era chino. La voce d'anno, poi sono salito e se n'era già andata, con la voce d'anno sì, e ho fatto una donna dove sta parlando. E però poi, quando mi stai dicendo che ha parlato tu il Giovanna, quindi ti ho detto, ma io come, anche all'epoca mi ha raccontato sempre una persona educata, lo so che ci sono uscito in macchina, mi conto, mi c'è voluto un barattino, sempre per mangiare, hai capito, qualcosa così, tramezzini, come non voglio mai, però sempre le mani a me le ho tenute sempre a posto, è contatto di educazione, perché se un'amicizia è un'amicizia, non è che tra una nel baracchino e subito uno si muta, hai capito, io non l'ho mai fatto come, perché se dovevo cercare donne, capito, non le cercavo nel baracchino, ragazzi, abbiamo avuto un baracchino parecchia, che sono 14 a pieno, e quindi io ho detto, meno 7 chiamato ora, me l'ho trovato io mai a trovare le antenne a fare il ticket, quello non sono. Mi sono buttato io, meno 7 chiamato gli altri, il discorso era diverso. Con questo mi sono sempre trovato bene. Quindi sono stato fortunato, la verità, quindi sono tranquillo per quello, ci mancherebbe, sono brutto quello che è, però piaccio per simpatia alle ragazze, però odio le ragazze che entrano a baracchino che pigliano per il culo, solo quelle, come se sono un giorno, cioè si spacciano per cedere, non è, il discorso è quello, magari in casa di un altro CB, per divertirsi, ma non sono i tempi che furono, prima non so che si poteva anche fare, ma adesso tu vuoi una cosa del genere. Io sento una ragazza che andava a casa degli altri, che piava per il culo, ma subito fa un culo. E come non ci parla? Mi lascio parlare da sola e basta. Poi se gli altri si fanno incappettare e fa per il rosso. Io quando sento quelle cose qui, ho brillato subito, cambio canale, al limite mi vado a televisione perché non ci rimango a fare inviare con una ragazza, ormai sono diventato grande, non c'ho più 20 anni, non ho più 20 anni, 25 per dire, a fare inviare per un culo. Ormai ho 49 e quindi la testa mi funziona benissimo. Se una vuole parlare con me deve essere seria, se no prende il baracchino, giuro a barcone, a me non mi ha fottuto più nulla, non limite a parlare con gli altri. Mi ritiro e gli abbia in culo, però a me non abbia per un culo. Mi dico se vuole, se una persona, una ragazza vuole parlare, parla con seriamente, entra, mi racconta quello che è, parla con noi, fa la ruota, cosa dire, però a spacciarsi per tante cose non va bene, quindi non mi piace a un certo punto, quindi le mando subito a cagare, io sono fatto così adesso, prima non lo ero, ma prima ci stavo, quindi adesso invece non ci sto più, ammetto tutto, sono più vecchio, sono più incoglionito, fatemi come voi, però la penso così, io ragazzo non faccio più le pellicole a baracchino. Sono tutti d'accordo che le ragazze se entrano, la prima al bar o buco invece per tempo. Adesso, prima sì, quando avevo 20 anni per dire mi divertivo, non sapevo passare, eccetera, eccetera, adesso le cose sono cambiate, ho 49 anni, grazie a Dio, sono mai vecchio io, e quindi a me non mi vuole nessuno, quindi sento una ragazza che mi dice ti amo quella perché mi piace tanto, no, meglio un prete, dico, che forse è meglio. La suola, ma non esiste che una vita che dice una cosa del genere, come era l'altra notte che era entrata quella. Pensare così, avrei piatto in macchina, avrei scusato a terra, per come la penso io. Se non io cuffia me ne metto un po'. magari a farci compagnia. A quest'ora è quasi metà notte, che? Ho detto, che sembrava il Falcone, come fa, una donna di importante. Non sai che la donna adesso si vendica, sì. Lo so, tutto un po' baracchino, capito magari in casa degli altri, quando si rinvette, rientra e comincia a fare la stupida, capito? E comincia a far vedere i pusi, a parte lui, cioè io ho una certa età, perché ormai ce l'ho 50 anni quasi, quindi a me quando entrano un po' così, preferisco andare al limite a la verità salita, io brasiliano conosco quanto mi voglio, vado lì, allo spagnolo, il telefono. Io un appuntamento, mi diverto, ceno, faccio un pranzo e ballo pure e mi diverto, però sentirmi a essere preso per il culo non è da baracchino, non ci riesco più come prima, la verità. Quindi sono fatto così, adesso come adesso, perché le ragazze quando è brutte, belle le ho conosciute, quindi dove abitavo. E grazie a Dio mi sono divertito. Ma mi sono divertito forte perché in pratica mi invitavano, ci ripetivamo, andavamo a cena, facevamo quello che volevamo e non c'era nessun problema, però se per rifornire un baracchino mi sarebbe fastidio, ragazzi, magari in casa degli altri, e quindi la cosa cambia. Finché una persona entra in una ragazza singola si può anche accettare adesso. Poi se vuole farsi un'avventura con qualche ragazzino, meglio che tu, non c'è problema, non sono di quelli avvoltoi, come una volta. Tutto lì. Avanti Gianni, fra l'amico. Io sì, buonasera, l'amico l'ascolto, lo sta modulando, Antone, la buonasera a quella Capri2 che ti super cordializza, no, c'è anche un fatto, Antone, noi siamo stati costretti da parecchi anni a attaccare il telefono in casa perché c'era il numero sulla guida e capito, arrivavano queste telefonate tipo la tipa del baracchino, capito, e mia moglie se ci credeva si illusiva come mi abbiamo attaccato il telefono, non so come il telefono ce l'ho io in casa, però il numero della guida non l'ho fatto mettere, capito, perché sono scherzi che rompono le cose e molte volte dallo scherzo più si dice in casa e dalla gente del paese che ha avuto anche dei problemi per colpa della gente, così per scherzo abbiamo avuto dei problemi che io non sono né pagasseri che ne ha arrivata che è lui che mi ascolta, che io ho fatto una roba, se io faccio a casa una roba per casa non esco, vado solo a fare la spesa e basta, e capito, e intanto così con questi scherzi si creano i casini. Avanti dal tuo amico. Capito. Comunque buonasera, vai, Franco da Sos, già ci conosciamo. Ma già è così capito. Purtroppo non sono il solo che ha fatto quel lavoro lì. Sono tanti. Solo che adesso con Antonello si vendicano, capito? Perché mi ha fatto troppo Antonello. Vero Antonello? Davvero mi ha fatto troppo. Anzi, mi assillava al cuore. Ogni volta che entrava a baracchino 273090, oppure cominciava con l'altro numero del telefono, insomma, quello di casa di mamma, però non assillo era. A parte che c'avevo due ragazze che entravano a baracchino e prima telefonava una sorella, poi telefonava l'altra, e stavo un'ora, un'ora e mezza al telefono, ma la vita non l'ho mai conosciuta. E poi mi assillavano per già mi cusi, no, non fa. Oia, ce ne sono fatte ragazze a baracchino, belle ma veramente belle, quello sì che si poteva fare anche per dire abbandonare il baracchino e andare a fare quello che si vuole fare. Però a un certo punto, cioè, farsi prendere per i fondelli la una che entra nuova, non esiste. Ormai c'è 5 anni, ci avete avuto 20 anni, cioè, che mi sarei divertito per dire, lo facevo una volta. E potevo dire, beh, mi ha dato un appuntamento con la sua data, l'ha gestombata. Ah, e la va che bene, invece adesso non puoi neanche dire, perché a parte se sono minori ci va in galera. Adesso come adesso, quindi no, non me ne fotti di nulla. Grazie a Dio, conosco le ragazze dove abitavo prima, via San Lato, di tutti i colori ne ho passato, brasiliane, quando la cominciamo a andare a fare l'appunto per dire vado o vado gratis, non ho problemi. Perché venivano a casa e mangiavano a casa mia, ci divertivamo, andavamo anche a baracchina addirittura. E non facevano andare a baracchina a parlare. E passavano delle belle giornate, però la famiglia da lupo non esisterò. Quella roba lì è mai dimenticata e passata. E adesso sento una ragazza per dire, a dove ti amo, quella va a fare la cosa, va a fare il culo, dico, a baracchino, per dire. Anche se mi conosce, mi vuole futtinuta. Capisco, se mi vuoi, invece una cosa del genere, mi dice al telefono, non la baracchino, almeno non me la futtinuta. Come la penso io adesso. Non ti potevi, cioè se tu non ti potevi giustificare, non ce la potevi mandare a fanculo la sera, cioè, e invece sono qui io, per cui non c'è nessuno, no, non ne potevi venire. No, veramente io cioè, l'ho sentito io per sbaglio, perché quando è venuto Giuseppe l'altro giorno, è venuto a casa alle 9:30 del mattino, gli ho detto ciao Giuseppe, dimmi cosa c'è. Dice, ma dimmi una cosa, c'è la tua sorella a casa tua, mi stava scappando la mesa, mi stavo dormendo in faccia, non ce la facevo. Mi sono trattenuto, ho detto, guarda Giuseppe, gli ho detto, se c'è mia sorella a casa, ho detto, entra per la chiesa, entra con nome suo. Non ho detto come Serena o come Sabrina a baracchino. E io non so che cosa gli abbia detto, e infatti l'ha fatta passare come che fosse a casa mia. Conosceva anche Simona, quando mai conosceva Simona? Se non ce l'ha mai vista questa qui. Poi io sono entrata, 3-4 minuti, e ho detto, ciao Giuseppe, ci sentiamo, ci sono stato salutato e devo andare a lavorare. Ma evidentemente era a casa di un altro, capito? E quello è il discorso, quello mi ha fatto, cioè se una persona dice salutami la mia, poi guardatemi la fuga a me, mica la conosco questa Sabina, e ti dico ragazzi la conosco a baracchino, ma piscando Sabina non esiste. E quindi mi ha fatto sapere quello che si è entrata a pigliare un burro a tutti, e che tutti pensavano che fosse a casa mia, quello è il discorso, capito? Cioè, tu fate così, magari adesso io, me lo hanno parlato bene, e mi sta anche bene. Fatti conto, magari parla davanti, prima la parolaccia a te e agli altri che c'erano, mi avrebbe trattato qualcun altro, e cazzo, brava tua sorella per dire, brava tua ragazza, cazzo, è stata malattia e ha parlato male, e ci ha pigliato la parolaccia, ma ti scherzando, ha detto, ma tutti erano convinti che fosse a casa mia, per dire, adesso fatti conti. Cioè, che una si comporta bene mi sa bene, ma che una entra e poi tutti pensano che sia casa mia, come ho detto l'altro giorno, è una fastidio, come la fai di fastidio a tutti. Quindi se tu magari già entra per dire tua moglie, io non la conosco, che tu magari conosci tutti i segreti miei, che io so che ne è stato con Simona, con là, eccetera, eccetera, che cosa hai fidanzato con quell'altro, hai sposato con quell'altro, incominci a scoprire altri, magari pensano che non sia casa tua, ma se pensa a casa che siamo a casa di un altro, dà fastidio, il discorso è quello lì. Eppure, quando mi ha chiamato Giuseppe a me, mi ha fatto, stavo venendo in faccia perché non ce la facevo più, mi ha venuto a me, 11:30, ho detto, guarda Giuseppe, casa mia, non ci ha parlato nessuno ieri, mi ha detto, vabbè, guarda, ha detto, e come mi ricordo io, cioè, ragazzi non ce ne sono venute, e poi domani, infatti ieri, venuta giù, hanno fatto parlare al baracchino, ieri anche oggi addirittura, per quel motivo lì. Ma ora l'ho sentita anche io ieri sera con Salo Ciano, perché mi ha detto che è andata Giovanna, io gli ho anche parlato con Giovanna, però io l'ho sentire dove nel baracchino, sono molto. Capito che modo il baracchino penso, cioè qualcuno c'era, oggi so che qualcuno il baracchino c'era ancora, però non lo so se entrano, capire se c'è a Sassari ce l'hanno, quelli che Mario lo usano, ma c'è, però di parlare con nome io sono tanto attento al baracchino per me. Aspetta, guarda, stasera Giovanna, se ti chiedi anche tu stasera, l'hanno chiamata Serena, ma già sta aspettando, cazzo Serena, e gli ha detto Serena, ma tu sei tutta scema, tutto scema gli ha detto lui. Allora, io sono Giovanna Coca-Cola, la sorella di Alice, non sono Serena, quello ha già convinto che era Serena, magari che era quella che è entrata magari 2-3-4 giorni fa che l'abbia rubato il culo, la scusa è quella, cazzo Serena, ma stai scherzando, Serena, se no Serena, incazzata lì, niente, poteva dire Giovanna, ma non ha detto, dice, sono Giovanna Coca-Cola. La sua è di Alessio, basta, hai capito? quello lì, cioè entrano adesso le, magari a casa di qualcuno, questo non lo so, ci pensa se è vecchio, a me non è forte dove essere, se è vecchio a casino, quello che mi pare piace, non me la fate più venuta, basta che non dica che sia a casa mia, perché ieri sera è entrato Mario, gli ho fatto fare 10 minuti, 4 ore, 20 minuti che avevo fatto, stava scherzando, perché gli ho detto, ma no, e tu dici che sei a casa mia. Infatti te l'ho anche detto, guarda che è casa mia, e lo scherzo è bello quando dura poco, non sei che pensa solo male, capito? È la gente. Infatti, facciamo venire a parte del tuo amico, se capito, non è la gente che c'è una passione, magari, io cioè, non chiedo, se no, il segnale l'avrei anche potuto vedere, hai capito, di solito, hai capito, basta fare il vecchio qui, e come sta dicendo tu, non avrei... si vede il segnale qua, a quanto arriva, a quanto non arriva, dove trovo, c'è gente che c'ha le stazioni, molte volte, non muove la torre, la cavolta qui, e mi rompevano le scatole, hai capito, con questi cosi, e dove ce l'avevo, poi già si è qualificato, sono messo il baracchino nel trattore, ed era un ragazzo che portava lo scuolabus che c'ha l'azienda, lì a Capomera, ma mai pensando che il capo mai che conosce tutti i passi che faccio, e poi ha conosco e altro non lo fa, e ho detto ma è andata così giusto quando ci hai murlato anche tu mi sembra con Marco, e Marco poi non ha più murlato, insomma cose se ne ha più un barattino e niente. Ok, avanti l'altro amico, ha capito dove rimetti il cambio. C'è molta gente che ce l'ha ancora il baracchino, e magari non modula, però, oppure entra e magari qualche volta lo accende, non sente nessuno e allora rispegne, e accenderlo lo accenderà tanti giorni magari, e purtroppo quindi qualcuno ogni tanto si affaccia un uomo, e speriamo che se ne affacci tardi, più di tanto. Lì, non sei vecchio comunque, non sei vecchio, sei giovanissimo, ne hai 10 meno di me. Già non so quello, ma è bello che quando, cioè quando è venuto Giuseppe la mattina, mi ha battuto ridere perché è venuto convinto che fosse a casa mia, la ragazza, hai capito? Intanto che mi ha detto qua a casa, dimmi una cosa, che cosa gli ho detto? Dimmi Giuseppe, cosa c'è? C'era quella che faceva a casa tua, gli ho detto, ma non sei scemo, gli ho detto, mi stava guarda, mi stava vedendo in faccia. Dice, è entrata una, dice, gli diceva Fabrizio, si chiamava Sabrina, poi detto, adesso ti chiama Simona, e lui ha detto, ci sono, mi chiamami Simona, e non gliela passata. Era convinto, tu, non solo lui, anche altra gente, che questa qui, forse mi vuole una casa mia, capito? Il discorso è quello. Infatti con quella piatta la palla al balzo, e si è divertita tutto lì, la dava, non so chi era, lei non me l'ha fregato per niente, però... A volte succede che c'è cioè, uno la profitta, cioè finché cioè, infatti non ogni sera, quando è venuta Giovanna qua, mi sono detto, dove Giovanna, così è successo, gli ho detto, è andata una persona, una donna, gli ho detto, e già Giovanna si è cambiata per te, gli ho detto, ecco, l'ho detto stasera, ho detto, baracchino di casa mia, gli ho detto, così mi ha fatto vedere che la muratura è inversa, infatti intanto gli ho detto, l'altro giorno, oggi, stranamente, quando è entrata lì, dice, gli hanno chiesto, come ti chiami, Serena, no? Dice, io sono Giovanna Coca-Cola, non so se è, che cazzo è questa Serena, hai capito? Evidentemente, questa cambia nome quando vuole, prima Sabina, poi Serena, poi non so cosa, hai capito? Ma dove non è per caso che qualche scherzo di quelli che fanno un cariello, anche stasera mi stava mi domando, che qualche scherzo che ha fatto Luca, non per caso? No, poi ce la do, senti io ieri sera con la ragazza, è entrata veloce e fuggita subito. E ho fatto 2 secondi di modulata. Io dice ciao, ho salutato, non mi ricordo a chi, e ho detto sto qui perché dice sto lavorando, mi capisco se sono, allora non metti neanche a baracchino. Era a casa di qualcuno, o la moglie di qualcuno, questo non lo so, comunque sia, è così. Comunque aveva fatto i bruni un po' di gente, mi rompono la palla a me, magari si mette a parlare male quella, e pensa che sia a casa mia, tutto lì il discorso. Finché si comporta bene mi sa bene, cioè dice guarda, non sto mandando a casa mia, sto mandando a casa di un altro, mi sta anche bene. Però che è la casa mia, anzi io che pensano che muovo la casa mia, mi sta male, perché mi sta un bel male a me. Perché grazie a Dio ho sempre parlato bene, mi conoscono tutti da un sacco di tempo, e anche Giovanna la conosco un sacco di tempo, da quando era piccolina, e te dà fastidio, capito Gianni? Cosa ne sai, magari, Carlini, dove sei provato? Sto provando a casa lì, ci immagini di coglione, che ti pensi che te lo dicesse una ragazza che dice, tu la pigli con me, c'hai ragione, non è che c'è troppo. Però a volte capita, a me se vuoi, cioè, finché uno diceva, sto provando per dire, sono a casa di un amico, per dire, c'è città mercato, sono in macchina. Parla, vedi che dove sei con chi sei, ma non dire che sei a casa mia e sei con me, e con me non ci sei. È capitato così già due volte, non una volta, già due volte è capitato. L'altro giorno, questa è questione di due giorni, questa presa per il culo che sta facendo quella lì, capito? Oggi quando è capitato con l'entrata Giovanna, che l'hanno chiamata Serena, mi si sono girati così, Gianni. Si capita una volta, potrebbe essere una coincidenza, ma questa è la seconda volta. Quindi questa sta entrando, sta dicendo che lì è casa mia, e a me mi si girano le balle veramente. Tutto lì. Quindi adesso quando la sento, quando la gente più di buon la portata, non fa vedere nessuno. A me lo dice, io sono io a casa mia, lei se non ti faccio parlare, se tu parli parli da comodo, o se non cambi casa, ecco. Quanti anni può avere una ragazzina, quanti anni può avere? Non lo so, c'ha da 25 anni, 30 anni, cosa me ne frega, non me la fotti nulla, però cioè. Questa è una cosa, non lo so, non me la fatto nulla, guarda, se la sento parlare, sto dicendo di poco importante. Certo, la voce l'ho già sentita, come entra la palazzina, non la faccio parlare, quindi a noi siamo a posto. Non puoi dire, sto provando una transazione, allora dica se è una transazione, vuol dire che sei a casa mia, per dire, se mi dà fastidio, mi sta anche bene, o no, fra. Sicuramente per me è una vecchia CB che sta entrando per permettere i fondelli, oppure qualcuno che è in macchina con qualche CB. Sì, è uno che ha un CB vecchio che gli dice istruzioni, non ti preoccupare. E quindi è una persona che mi conosce molto bene anche a me, perché sa che sono fidanzato, ci ho fidanzato con Simona, quindi figurati tu, quindi una persona magari che posso anche conoscere, magari ci potrei anche uscire, cioè che sono, anzi non che ci potrei uscire, che sono uscito con lui, perché se non è Sassari vecchio, questo segnale è molto molto basso, non è di Sassari, è di fuori, quindi adesso quando la sento che lei entra, non me la fotte nulla, non sta parlando, più di un buono importante, non me la fotte nulla. Lei se vuole entrare entra, quando mi è suo e dice dove sta parlando, se no manco ci parla, per come la penso io. Perché a me sono una persona che dica che è casa mia, la verità non mi sta bene, perché mi sta ben male. Tutto lì. Quindi io, anche se sta ascoltando a quest'ora, le cose sono chiare, o entra con un attivo suo e dice dove sta volando, o entra con nome suo, a me dice dove sta volando, non me la fotti nulla, è la seconda cosa, entra normale, cambia nome, entra normale, e dice va, stiamo volando per dire la casino, e non la casino, cosa me ne frega, partiamo tutti amici come prima, però e mica che stiamo volando da casa mia, mi si girano proprio in mano un glacé, allora non la faccio parlare, il discorso è quello, lei come la penso io, poi la propria come vuole quello che è affianco a lui, non me la fotti nulla, a un certo punto, e quindi due sono le prassi, una o l'altra, decida lui. Un segnale forte da me, come ti arrivava, forte? No, è il Santiago 7-8, non è alto, la verità, non è roba di Sassari, la verità, no. Non sto dicendo, non è roba di qua, non è roba di fuori, magari carica di punti, cosa ne so io, la stessa c'è magari cazzate, potrebbe essere anche usino, non lo so, comunque sia, è così. Allora, presenta Giovanna, ha parlato lei 5 minuti di rivista, anche stasera. Visto stasera quando è entrata Giovanna che gli hanno chiamato, che c'è Serena, gli hanno chiesto, e lui gli ha detto, no, io non mica mi chiamo Serena, gli ha detto, io mi chiamo Giovanna Coca-Cola. Quindi vuol dire che è così la storia. Hai capito? O si fa chiamare Serena, o si fa chiamare Sabino, o si fa chiamare magari il suo guru che gli andasse, vuole che fanno i però così. Stasera è capitato così, questa è la seconda volta che capitami già. Il discorso è quello, cioè una volta potrebbe essere normale, ma questa qui non è qui una coincidenza, è un fattore che questo è un vizio. Il discorso cambia. Quindi o cambia cosa lì, o se no quando la sento mi metto la portante, non parla con nessuno, non mi interessa nulla, si può dimenticare che è baracchino. Finché non scopro che da dove stiamo volando lui, lei, quando scopro che stiamo volando, da dove stiamo volando lei, è un più pericolo a lui, io. Siamo a posto, no? Con gli occhi, prima o poi, i suoi segreti, quello che è, lo spiegherò. Vedrà che sparisce, è come se facciamo una volta. A un certo punto, cioè, mi dica che è casa mia, che si chiama Giovanna, cosa del genere, Serena, Sabrina, chi sei di Bari di Biatte, che dice, poi ti passo Simona, cazzo, ma se cazzo, Simona è la mia ragazza, come cazzo fa a saperlo, se fritta non glielo dice qualcuno. Quindi a un certo punto mi ha preso per il culo, a me mi dà fastidio questa cosa, questa storia qui, siccome io, quello che mi ha fatto non è altro, che lui Giuseppe è convinto, anzi mi ha detto anche Gianni, se lo chiede a Gianni, quando lo sente a Baracchino, tutti erano convinti che quella lì era casa mia, tutti, tu figurati se questa qui avrebbe detto io vieni in amore e andiamo scoppiamo, cazzo, se venuti tutti a casa mia, sotto casa tua, una fila di macchine, come succedeva una volta, 15 anni fa, con Giuseppe Altamura, che mi trovavo la fila della macchina del CB, cazzo, che sotto casa mia, per dire, ho sentito solo per la Baracchino, e questa signora c'era 8 anni, e tu ma stai scherzando, ho detto. Tutti erano convinti che fosse messo invece cos'era, la nipote Giuseppe Altamura che aveva diciamo, 17 anni voleva andare a far l'amore con gli altri, ma ti scherzava. Ma come dicevo, Antone, io ho modulato anche con una che aveva un camion, non è che quella, Antone, una che guida un camion, un TIR, che la conosci tu, che è di Sassari, poi guida un TIR, mi sembra un po' frutta. Non è quella, già quella entra una volta ogni tanto, già l'ho sentita anch'io, non c'entra niente quella. No, ma è proprio, io non so, ho sentito, infatti me l'ho guidato subito, assurdo, invece tu hai detto, oh no, la mia sorella che ho guarda, perché ho sentito non parlava mai, come quinto di cenare sono salito a vedere se c'era... tu mi hai detto tu che c'era Giovanna, ma io Giovanna, ma come la ricordo che parlavo nella radio? Figurati, e capito, ho parlato sempre con te e non sapevo quanti, ma perché c'avevi sorella, dove? Giovanna parlava con me, anzi, era un bel piccolo. Allora, il fidanzato, se ti ricordi, comunica con la figlia di Giaguaro. In pratica Giovanna parlava da casa mia, in zitto, per certezza, che un giorno ha preso, Giovanna mi sembra 12 anni, quello del genere, ha preso le 27B, cioè non 7B, 250, l'ha acceso, gli ha regolato il fatto, siccome è molto intelligente, molto intelligente quella con le cose, ma se ha preso, si è messo a regolare, siccome c'ha il termalopole, c'ha il driver mi sembra, poi c'è aspetta allora, ha regolato quella cosa e poi ha preso e usato il microfono a tavolo, penso usavo quello con l'effetto di 50, l'SB usavo. E c'è una portante, io gli dicevo, ciao fratellino, come mi senti? E tu cazzo, e tu arrivi per 30 qua a casa, cosa stai usando? E mi dice, fratellino, tu usavo l'effetto di 50, mi ha detto, come sento così, e tu stacca tutto sotto spacco la testa, gli ho detto. Non me la ricordo Giovanna, ma anche lui ha detto, cioè ci passo, dicevo che Giancarlo, hai capito, però Giovanna non è proprio, no, gli sono ogni giorno facendo spero, e non l'ho vista, non so se a me lei mi conosce, però no, nel baracchino proprio, ti dico la verità, non l'ho mai modulata, hai capito, sono una vita, come, perché magari il periodo che l'ho modulato, io modulavo a lei, il baracchino però ce l'ho sempre a tutto. modulato, sì, modulato, sono che era anche di Sassari, ma come li ricordo, mi ricordo le persone grandi, a Dinevra, la Luce del Mattino, Fiocco di Neve, Moini, però di altre ragazze, no, Amatosa, Giara, di Usino, Romina, da Piovare, che ci andavo perché erano amico di Lizzi, poi un lacrimo mai inteso, no? Ok, anche io mi sento moderato, però di altro non me ne ricordo, hai capito? E poi, se diciamo che mancano un sacco di anni, adesso queste sono ancora donne, se all'epoca ci avevano, cosa ti posso dire, 20 anni, adesso ne avranno 40, ne avranno, capito? Riprendi qua, mi senti? Caspita, c'è di seguito. Senta, ma pensa bene. Chi è che vuole entrare? Ci vengono portate, non è tanto. Va bene, non ho voglia di entrare. E tu a me bene mi ascolti, Caprino. Caprino. Io riprendo, e mi faccio un orologio qui. C'è un coso, sono i moiti, sono le 12:24, le 24, anzi, le 0:24 sono. E vi lascio ragazzi che domani anche per me sono alla sveglia, ciao Antonello, ciao Franco, ciao a tutti gli amici in ascolto su questo canale, passo in QRTSK causa l'ora tarda e ci sentiamo alle prossime, magari domani, hai capito, salvo complicazioni che non ci sia qualche cosa di trabacco in più, okay, però su questa radio sono sempre libero di pomeriggio tardi. Ok, vi saluto, riprendi Antonello. E ciao Gianni, ci sentiamo un po' di dunque metti buon tutto alle prossime, fammi bene. Allora ti Franco, riprenditi la tua. Io volevo dire una cosa a Capri 2. Capri 2, ma bene mi ascolti lì da te. Ok, io Massimo riesco a percepire, ti ascolto con Santiago 3, la radio è anche qua, con la radio comprensibile, Santiago è basso, però c'è appena appena di QRM, quindi se non c'è stato il QRM era stata più lineare la cosa. Comunque, ma tranquillamente ti percepisco per essere da quel QTH. Di nuovo signori, buonanotte a tutti. Va bene, dai, Capri 2, ce la riascoltiamo per il prossimo, buonanotte, buon tutto e buona giornata per domani. Ciao Gianni, ci sentiamo domani, eh? Quando vi entri, non quando vi torni, quando vi entri, ma ti svegli e poi vai a lavorare e poi entri. Noi vediamo già quest'anno. Via, ciao, ciao, alle prossime. Ci sentiamo. E beh, fra, come sta? Tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto. Mi invecchiamo, stiamo, più che altro. Per il resto poi già va bene, fa tutto bene. Io anche lo stesso, mi invecchiando più che altro. Ormai ho 50 anni, sei roba, quasi 40 anni per esattezza. Ormai sono fottuto, sono vecchio, che mi devo adattare. Piano piano, come, come quando eravamo più giovani, te lo ricordi qua, 20 anni fa? Sì, a voi me lo ricordo 20 anni fa, soprattutto diceva che era pieno di donne, cioè, sembrava un maniaco, tutto pieno di ragazze in te, entravano tutti a farmi compagnia, anche addirittura i mattoni che non, da parecchio non entravano perché non sentivano donne, ciao, Alice come stai? Sono entrato a parlare con questa nuova ragazza che è entrata, figurati, tutti entravano su 14, allora sì che era bello. Sì, prima sì, e adesso magari è cambiato tutto, è cambiato, a parte che c'è meno gente, c'è, e quando entra adesso una ragazza allora cosa fanno tutti qua? Tutti lì, stanno lì tutti in quel canale a chiamare, a fare, che va. E cosa ci vuoi fare? Gli uomini sono fatti così. Sento la donna a farle dare che i balleschiuga già lo sai. Tutti lì sono, entrano, ciao! Sei nuova! Dove stai? Dove stai modulando? La casa che stai modulando? Quanti anni c'hai? Come ti chiami? Ma stiamo facendo un interrogatorio, non so di che cosa. Ma non sento una persona nuova, guai. Tutti attaccati sono, come le pulci. infatti è così. Chi è che vuole entrare? C'è una portante ogni tanto, quando parli tutti mette la portante, però non lo passi intanto, dai. Chiamo chi passa, tranquillo. Com'è che già lo passo io dove muoio però? Se di lui non ci parla di là, io parlo di qua, ma lui di là non ci parla. Quindi sono a posto. E adesso questa settimana se fa bello mi ci tiro su l'antenna come l'avevo una volta a vedere se cambia la musica come cambiava prima. Sistema tutto, sistema tutto, fregatene. Io c'ho tutto qua, c'ho una tela per Perù, via tratta, quindi c'ho anche quella direttiva che mi ha messo, sono a posto. Cosa ha altri posti ormai? C'ho il TH78, non posso portare appresso, posso anche andare a un lugar dove voglio. C'è il portatile, quindi sono a posto, non mi interessa niente. Ehi capo, ma io avevo intenzione di metterla una direttiva della 27, però troppo grande, 4 metri sono, è molto grande, se fosse appena più piccola magari si potrebbe anche fare un pensierino, ma viene quindi piglia tutta la terrazza. Perché non ce l'hai di vedere la prima, fare la diploma? Dopodiché devi fare il 10% più di misura, quindi fai 2,75 più il 10% in più, fai quasi 3 metri dietro e 2,60 avanti come elemento variatore, quindi va bene. Gli metti il motore come ho fatto io di parabola e stai andando, cosa mi ne affutti? A me va bene, come quando sto usando io l'antenna. La uso per parlare anche per ascoltare e per fare i baracchini più che altro, perché non posso mettermi tra la campagna adesso, non mi ha fottuto la campagna, non fa capito, ma c'è la direttiva, è sotto e mi posso fare i parametri giusti, capito? Perché vai in orizzontale e quindi elimina tutti i fusci, roba del genere, capito? Lo so, ma guarda, piccola cosa, per stare lì a costruirla a fare, preferisco meglio comprarla già fatta, che tanto non è il costo, non è che costa tanto, non costa. Almeno sei sicuro che c'è abbastanza, invece è abbastanza bene, solo che è troppo grande. Io non ti credo, guarda, passa a casa e ti faccio vedere quella che ho io, non è grande, è piccolina, non è grande, ti sta tranquillo. Tu non ce l'hai due elementi di Mantova, ma se ti metti quelli, quanto è lungo l'elemento di Mantova? Un metro sessanta, un metro quaranta, mi sembra, adesso non mi ricordo l'esatta lunghezza, la verità. Prendi un'antenna di una F4, del primo canale, oppure una F6, ti fai la direttiva, ti devo far faccio, a comprare la nuova. Ha fatto qua, sta pagando di mettere i Grand Prix, cioè non i Grand Prix, di Grand Prix di Mantova, ma comunque ti fai la direttiva, l'ho fatto io. Non ci vuole molto, non c'è nessuna spesa, a parte il motore, il motore me l'hanno buttato nella mondezza, 5-6, uno me l'ho tenuto io, l'altro me l'ho regalato a Adriano. Poi gli altri cosa me ne facevo? Ho preso, dicevo, se lo trovai buttaci, non me ne ha fatti nulla, nuovi, della del system. Capito? Ma quelli sono sempre buoni a tenerli, magari capita che si rompe uno o una cosa, sempre riscontra se non devi tenere. Io non c'ho mica la Mantova, no, io c'ho la B27L, io ho messo nel tenere di campi, figurati, me ne frega un tubo a me di quegli elementi, se qualcuno serve i radiali di Mantova ce li ho di riserva, nuovi, che c'è. E io sto modulando con una Mantova, ma è tutta messa male, infatti la tengo sempre sotto controllo con la connotatore, la tengo perché adesso, questo fra un paio di mesi, se ce la faccio me la compro nuova, mi prendo la Mantova di nuovo, mi prendo, e ce la metto nuova sotto, ce la metto, e quella ce la butto via, che tutta la tutta brava, il tappeto, questa qua. Ce l'ho, io ho la bobina, ho la Mantova e i terradiali, ho. Se ti servono, niente, me ne frega proprio niente a me. di resa, voi e basta avanza. Ecca, no, io quello lì è tutto buono, addirittura l'aspirale, la molla era rotta questa qua e ne ho buscato un altro e gliel'ho messa, però no, per quello già sta andando bene tutto quanto, solo che è troppo messa male lì tutto quanto, va, gli stili, quelle lì sono messe male, però sta andando. Confronta come, io non speravo che usciva così, confronta come a com'era là. Ah beh, quello sì, sarà bene. Non so, sta funzionando bene, la mia purtroppo è quella che delle stelle, gli ho fatto la unica modifica, ho fatto sulla radio di Grand Prix, li ho messo. E ciao, non ci aspetto, vado tranquillamente in 45 metri, parlo tutti i giorni, la verità è mi dà un sacco di soddisfazione, anche in addirittura in VHF, figurati tu, perché parlo nella frequenza marina, quindi non ho problemi. Basta, c'è un sacco di soddisfazioni. Sì, sì, una volta che così non si andrà bene, vabbè, io se ritrovo l'accoppiatore le stazionali vanno a rosso, però non mi interessa, con l'accoppiatore me lo ricordano benissimo, e in tutte le frequenze della corda, via, vabbè, che posso, tiro così, poi vediamo com'è, vedi, adesso vedi, vedo di stazionarci, ciò adesso, e decidiamo. Ah beh, quello sì, a me mi sono tranquillo, parlo in 45, te lo sto dicendo se qualche cosa, e anche nel rapporto marino parlo, quindi tutti i giorni non ho problemi, e mi diverto. Se voglio ho anche gli altri apparecchi, per dire nell'IPD oppure PML, mi diverto, non ho nessun problema, ma va bene così come sto, non è che mi interessa nient'altro, va bene come sto formulando, anche la risuola è perfetta, quindi non ho speso neanche molto, la verità. Le bocchette marino ho pochettato con le barche. No, negativo, ho due o tre amici che parlano lì e quindi parliamo tra noi, capito? Ci divertiamo anche addirittura in LPD o in PML. Ci sono frequenze per parlare, la verità, libere per me più che altro. Se avessi avuto patentino non sarebbe stato così, comunque per me io, come si dice, meglio fosse tutto, diciamo, che essere normale, e quindi mi diverto. C'è un sacco di libertà. Se mi dovessi prendere patentino, ho finito tutto, non userei più niente in teoria, quindi così va bene come sto divertendo. Siamo una bella ruota, tra maschi e donne, e ci divertiamo. Tutto si basta partecipare. Devo aspettare. Beh, ognuno ha solo che noi entriamo, facciamo, non entriamo da loro, però sulle nostre frequenze ci divertiamo lo stesso. Cioè, se parte una parola non succede niente, mentre loro sono controllati da tutti. Quello sì, per quello viene una cosa giusta, recente. No, a me per il momento non ne va ancora lì, non voglio fare quel passo, non mi piace. Io voglio spirito libero, capito? Mi trovo bene per il momento, poi se uno si vuole tappare il culo per avere apparecchi che non deve usare in casa, è un discorso diverso, perché non c'è diploma e non c'è nient'altro, quindi io ho il culo tappato, ho il diploma e sto bene così come sono. E nessuno mi ha meno fatto le balle a me finora, da bene da questa parte, quindi sono tranquillo. Quello me l'ho studiato, me l'ho pagato e sto bene così. E grazie a Dio c'ho anche il nome attivo di quando lavoravo con altri miei punti radio, quindi sono a posto, per dire, nella frequenza marina sono a posto. Come le altre cose la cosa cambia, però non ho lavorato, diciamo, là, quello che ho avuto. Mi trovo bene così, a parte diploma. Va bene così allora, non è che... no, io invece non so niente, guarda, io ti dico una cosa, se lo vuoi, cioè se uno vuole, si prende un ricevitore da 030, da 030, e ascolti tutto quello che fanno, cioè tutte le animature là, se vuoi li puoi anche ascoltare, tanto a entrare non puoi entrare, solo ascoltare qui. Beh, quello è logico, non è che entrare puoi entrare, ci batterebbe che vai e entri per dire nella frequenza della notte, ma stai scherzando, non esiste, non sono di quel tipo io che entra e va a salutare o fare pernacchie, non me la frega proprio niente. Vuoi mettere a posto se lo facevano certi, cioè, se ti ricordi bene, tanti anni fa c'è chi faceva pernacchie, c'è chi si divertiva più che altri, poi a parte tutto sono divertiti anche gli animatori, cioè in pratica prima vedevano la porta da quelli, i vecchi, e poi sono diventati gli animatori, se ti ricordi bene, quindi adesso le cose sono cambiate, io non sono di qui, non ho mai fregato niente la vita, io se entro, entro dove posso entrare. E sono abilitato, no? Non posso entrare, sono appena nato, al limite poter ascoltare quello che mi piace, continuo e mi stufo e chiudo, no? Non me la frega niente. Se cioè, mi piace parlare, nell'ambito della 27 potrei parlare a parecchi perché c'ho di passione, prima lo facevo con lavoro, ma adesso non mi interessa più niente, quindi adesso c'ho come passione. Lo faccio per qualche persona, fare riparazioni, qualche amico, perché farlo per lavoro non esiste più, non ci vuole più niente, puoi vivere di fame, più che altro, perché non conviene più. Ormai sono combattuto tutto, sono combattuto i componenti, come fai a comprare una caricatura che costa per 50.000 euro o 20.000 euro per riparare che cosa? E di quegli apparecchi che sono usciti nuovi, che sono tutti un microprocessori e ci vuole la base saldante che quello col coso, scherzano, non ne posso più. L'unica cosa adesso, come fanno tutti, è come fanno, come facciamo una volta, come ti rivolgi, prendi la scheda, la ordini, non fai altro che riattaccargli i componenti e la ripiazza e basta. Conviene tu fare così, ti risparmi, tu devi andare a ripararla, perché è un casino, con tutti quegli integrati che ci sono, i microprocessori, che fanno un sacco di cose, le schede non conviene più ripararle, conviene veramente ordinare nuove, oppure ti prendi la parete intero, per dire, compra 40 euro, ti prendi la parete con 40 euro, e hai fatto tutto, non devi pararlo, è un apparecchio vecchio, c'è un lampi, non è come prima, non ci sono più resistenze, non ci sono più transito, non ci sono più condensatori, non c'è più gli integrati piccolini, adesso ci sono i processori, fanno tutto, fanno una scheda intera con i processori, quindi conviene ordinare il pezzo intero, non fare altro che risaldare i cavetti e l'apparecchio funziona, senza fare nessuna trattura. Adesso come adesso, perché ormai le cose sono cambiate. Ma quello già è vero, adesso tutto a schede, adesso cambiano la scheda e buonanotte. A me, un paio di mesi fa mi si era bruciato la scheda della lavatrice, sono andato a questo qua, mi ha detto, dice bisogna ordinare la scheda, ma la scheda non si può riparare, no, dice bisogna, non convinto. Mi ha detto, dice, 140 euro mi sembra che va qui, lascia perdere, vai, che male mi compro la lavatrice nuova, ho detto, ma invece cosa ho fatto? Ho tolto la scheda, ho tolto, ho dato a un amico, mi ha cambiato il condensatore e di nuovo funzionava. Sì, ma è così, non te ne parli nessuno scheda. Quando vedo così, si spaventano i tecnici, non c'è neanche, c'è come la CBC che non pensa del genere, per dire, una di quelle stesse piccoline, una di quelle integrati, ma come cazzo fai a farla arrivare? Non ce n'è, non c'è niente, non c'è nulla, stasso, lei era fusato, non è la CBC, quindi devi scontare di riparare per dire quei televisori degli ultimi usciti, quelli a in LPD. È meglio che lo prendi, per dire un CD, prendi, ce lo butti e se lo trovi in quel posto, perché non è possibile ripararlo. Non vale più la pena. Va bene, ti vuole tanto la scheda, figlio di pazzi, sei già ripato, se non ho pazienza. A volte capita malato che faccio qualcuno di sapone e il tecnico si tenta per dire. Dice che ha fatto la scheda, cioè ti ha cambiato con il sapone come fanno lì in quei monitor del computer per dire. A volte capita che ci sono come nei ricevitori di quelli di TV che hanno i condensatori che sono piccoli alimentazioni 10 volts, una volta che ti passi con 10 volts e passi a 12,15 si spacca il condensatore e non si illumina più niente. A volte capita quella, basta cambiare il condensatore e si è a posto. Ma quando è il processore, l'ha venduto, è finito, capito? Una volta che c'è il microprocessore preparato, ci ricordo tutto per forza, mi fate una compagna per dire batti un uovo e si apposta, e spandi pure, costa anche di meno. 65 euro ce l'ho rubato adesso, se dite prima ci volevano un sacco di soldi, adesso 75 euro ti fa 200 canali, una volta ce ne volevano 400, 500 per tutte quelle frequenze. Quasi 20-25 watt, abbastanza molta, figurati, solo che quando li metti a quella potenza lì satura e quindi devi diminuire a 12-15 watt, non di più. Lo sto dicendo, se tu ti faccio vedere il 2009 che monta il 2CC 2166 e un 1969 originali, come mai quello là monta quei finali là originali? Strano, non è possibile, cioè che monti tre finali uguali, uno con il pilota e gli altri due come cose, che discorsi sono? Non lo so, a meno che non sia fatto nel circuito, non so dire, comunque sia, io ti faccio vedere il Galaxy Pluto, il Saturn Echo e il 2009 montano 1.76 come pilota e 1969 come finale, tutti, da prima all'ultimo. Se poi tu hai visto questi 23-12, non lo so, è una cosa strana, perché io non l'ho mai visto fino adesso, fino a quest'anno qua addirittura. Ma appunto io neanche lo sapevo, infatti è una radio che mi ha dato un amico, no? E ce l'ha bruciato in finale e l'ha messa da parte e non ha modulato più. Non so se ti ricordi Agostino Formica di Sorso. No, ma come Formica? Cioè, mi ricordo quello che siamo durava con bacino digitale, in moto carrozzella, che non mi ricordo come cavolo si chiamava. Nuota carrozzella Sos. Chi era questo? Un ricordo. Era un barchino digitale, cioè quella, adesso non mi ricordo se fosse un Ranger o un cavolia. Il barchino c'è quella. Uno che nuota carrozzella, ma una per poche per esattezza. Sì. Invece sparisce addirittura l'elenco, è molto strano, come se cambiassi canale, cosa del genere. Prima mi sembra bastava a me la verità, adesso mi sono accorto, sono tagliato che te la sta facendo, me lo sta facendo un paio di volte, anche adesso lo sta facendo così. No, adesso no, ma poco fa sì, l'ha fatto un paio di volte. Non lo so. Non lo so, bisogna vedere la città per... Morto. Bravo. No, non lo so. Se ne siamo alla frequenza. No, come sapevi, ma il problema di commutatore non mi capita le cose 2009 a volte. Quando vai a cambiare canale a volte non commuta bene le lamelle e mi fa il doppione, capito? Di canali, tutto io, quello ti ho chiesto. Ok. Cazzo, io non ho 4 ore. Salute, ho fatto proprio io le piccole, guarda. Beh, fa, senza piccolo, ma avevo letto, ti saluto e ci sentiamo domani al limite. Stavi bene, buccoliti, buonanotte, ci stiamo domani mattino o di sera. Eia, Ale, ti ho chiesto poco fa, forse non mi hai sentito, se c'è qualche frequenzimetro esterno. No, la verità no, un frequenzimetro esterno non ce l'ho. Io facevo un frequenzimetro per carta, se può farlo, l'ho dato un amico. Ma era bello quel frequenzimetro, diceva la sondina, tu figurati, l'agganciavo l'antenna del televisorino sopra il tetto e quando sentivo l'esco portavo il male, se ne sapevo già quando è sotto casa mia, mi segnava la frequenza dove mi misurava addirittura, figurati tu. Mettevo il cavetto, tac, e avevo la portata del coso dell'esco a posto, figurati. Quello va sempre il frequenzimetro, però un frequenzimetro così ce l'ha, Gio Maria ce l'ha, un frequenzimetro esterno per attaccare all'apparecchio digitale, chiedeva a lui, quello c'era Mario, la buona anima di Mario. scappa. E no, a me mi serviva solo per, siccome c'ho un Galax a Saturno Turbo, e questo volevo... Ma fa chiedere, adesso tutto il turbo c'ha il frequenzimetro del range, tale uguale, arancione. Sì, sì, sì. Franco, sei sparito e torna. Franco, Franco, Franco, Franco, ci sei? Sì, cos'è, spostato di nuovo? Ehi, si stavo dicendo che il frequenzimetro, quello che sta cercando tu, c'era il Ranger, perché sono precisi. C'è la stessa tastiera e anche il stesso frequenzimetro il Ranger. È stato un turbo. Capo. No, a me è solo per mettere le frequenze, hai capito? E con quello ce la fai a mettere le frequenze, con frequenzimento esterno. Sì, già lo so che Gio Maria ce l'ha. Siccome da Gio Maria avevo comprato questo microfono, sto modulando adesso, l'MGP5, e non sapevo che c'aveva anche il frequenzimetro, però a me mi serviva solo per un giorno, per tarare questo. Io ho capacito via in prestito per un paio di giorni. Mi chiedi, c'è un attacco per l'esterno, per l'esterno e per l'interno, se non mi ricordo male, non vorrei ti fesserie, comunque mi sarebbe ricordo che era così. Ecco, ma no, questo lo farò perché c'è un attacco dietro per così. Va bene, dai. Vedi qualche giorno, sennò mi sembra che se lo sta vendendo, se in caso mai me lo prendo, me lo tengo. E come puoi fare, non c'è problema. Chiedilo, ce l'ha, mi sembra che lo sta dando. Non ti costa niente, chiedilo, non costa nulla. Scusa, me lo c'è il frequenzimetro, fa l'esterno e l'interno, perché mi sembra che c'è due tipi di aggancio. Uno a carretto, mi sembra che ti mette la PL, che ti fa in trasmissione, e poi c'è un attacco esterno per agganciare direttamente all'interno del baracchino, per avere la frequenza giusta. Chiedilo. La pace che devo via, così ti metti la cosa e sei a posto. Vabbè, ci sentiamo domani allora. Oh, fa. Fammi bene, buonanotte e alle prossime. Eia, ciao ciao, ci sentiamo. Buonanotte, buon tutto, buona giornata per domani. Eia, ciao.